Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sì, no, no, non mi interessa. Come mai? Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice. Non se posso... era lei un'intervistina così volante, sì. Non voglio neanche definire chi è quella persona. Non rientra nel mio schema mentale un giornalista così. La Zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. E la fame del peccato è ingozzarsi d'ignoranza, non sentirsi responsabile, prendere sempre la distanza. E se si libera la mente dai dogmi della casta, non si è più marionette, si incomincia a dire basta. E destiamo le coscienze prima che sia tardi, oddio, prima che un banchiere infame gridi merda, è tutto mio. Ciao a tutti, sono Paolo Bernini, ho 25 anni, sono laureato in tecnologia della comunicazione. I temi che mi stanno cari sono tutela degli animali, la città dello Stato, che sono vegano e sono disiscritto dalla Chiesa Cattolica. Che poi cosa vuol dire essere disiscritto dalla Chiesa Cattolica? Lo vorrei capire, caro Parenzo, tu che sei un anticlericale di ferro, no? No, beh, no, però disiscriversi dalla Chiesa Cattolica, così si è presentato un neodeputato o senatore. Vuol dire che si è sbattezzato. Sbattezzato. Sì, senti quest'altro. Non penso che ci sia una tessera di iscrizione. No, certo, senti quest'altro. Ciao a tutti, sono Diego De Lorenzis, vengo da Lecce, eletto alla Camera. Io mi occuperò di, in quanto sommelier, dell'agricoltura, che anche nella nostra terra è stata bistrattata e barattata con tante altre cose inutili. Viva i sommelier! Un sommelier alla Camera dei Deputati. So tre lingue. Io sono David Parenzo, faccio il clown alla Zanzara e mi occuperò di portare un sorriso in Parlamento. Ciao, mi chiamo Massimo, mi hanno rottamato e faccio l'ambasciatore del tartufo nel mondo. Massimo D'Alema, che è diventato Ciao. Ambasciatore del tartufo nel mondo. Aspetta un attimo, senti quello che sta... Ciao, sono Giuseppe Cruciani, sono molto cattivo, faccio la Zanzara e porterò il disastro e il caos in Parlamento. Ai, ai, ai, da, da, da, da. È proprio rincoglionita forte lei, E tra banchiere e grandi manager. Ma tu lo sai chi sta cantando? Il mitico cappellaio matto che hai portato all'attenzione dei media nazionali per merito tuo, bisogna dirlo. Il cappellaio matto grillino è stato creato dal signor David Parenzo. Te ne saremo grati fino al termine dei nostri giorni. Amico mio, ha fatto tutto lui. Ho semplicemente intuito che quello era un personaggio. Aspetta, aspetta, senti quello che sa tre lingue. Ciao a tutti, sono Mario Di Stefano, eletto alla Camera dei Deputati, ho 31 anni, sono un ingegnere informatico. Parlo tre lingue, studio la quarta, per questo mi candido automaticamente per la Commissione Esteri, mi piacerebbe tanto portare quell'esperienza che ho acquisito anche in quel settore. Adesso è facile pigliare per il culo, no? Cioè è facilissimo, no, è facile, però bisogna dire una cosa, non voglio difendere nessuno, poi li vedremo all'opera, però, lo conoscevamo già. Noi della Zanzara. Ieri sera ho visto una formidabile intervista della Nobile, di Sabrina Nobile alle Iene, al mitico Isidori. Te lo ricordi? Il mitico, il mitologico Isidori, leghista delle Marche. Il leghista delle Marche. Quello che alla Camera pronunciò queste parole. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo come Lega di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Cioè, c'erano questi alla Camera e al Senato, c'erano anche questi. Appunto. Questi saranno anche argilla pura da modellare nelle mani di Grillo e Casaleggio, perché questo sono in questo momento, no? Argilla pura, naturalmente parlo generalizzando, argilla pura nelle mani di Grillo e Casaleggio, che hanno un ruolo preponderante. È una bella Ma immagine. C'era Isidori! Questa realtà ci schiaccia nell'odio che senza altro tema caldo di oggi è quello dell'eutanasia. Un'eutanasia? L'eutanasia, no? Che se ne parla molto. Non ho capito. La questione dell'eutanasia, no? Che è molto delicata, soprattutto in un paese come il nostro. No, non saprei rispondere su questo qui. Sa l'eutanasia? Che cos'è? No. Devo dire che mi ha fatto anche un po' pena l'amico Isidori, il tenero Isidori, sudava a un certo punto, la pelata faceva trasparire una goccia di sudore. Però certo, signori miei, a meno mandate c'è gente che, non dico che parla bene, ma che parla, perché qui non si capiva nulla in realtà. Infatti c'era una scritta in basso che decrittava tutte le parole di Isidori. Cioè prima c'era Isidori, per cui va benissimo, piglieremo anche noi per il culo, abbiamo preso per il culo Pepe e altri, però quello c'era, sono 900, dovrebbero essere dimezzati, zac, e poi vediamo chi entra. Abbiamo già un ospite pronto, però c'è altra carne al fuoco, attenda un attimo. Sistema prostitutivo per il divertimento di Berlusconi, questo è il tema di oggi. Sì, ma lascia perdere, questo è il processo Ruby in corso, va bene, non lo sappiamo quello che pensa. Ma lo sappiamo quello che pensa l'accusa, altrimenti non l'accuserebbero di quello che... Cioè, sì, che vuoi, questa è l'accusa, ma lo sappiamo quello che pensa l'accusa, lo sappiamo. C'è una polemica che riguarda il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, subito polemiche. Senti cosa scriveva il 21 gennaio sul suo blog. Da quello che conosco di Casa Pound, del fascismo hanno conservato solo la parte folcloristica, se vogliamo dire così, razzista e sprangaiola, che non comprende l'ideologia del fascismo che, prima che degenerasse, aveva una dimensione nazionale di comunità attinta a piene mani dal socialismo, un altissimo senso dello Stato e la tutela della famiglia. Cioè, il nuovo capogruppo alla Camera parlava così del fascismo. Del fascismo, ecco. Capito? Andiamo bene. Beh, ottimo inizio, ottimo esordio, diciamo, di questo personaggio. Allora, questa signora, questa ragazza, diceva delle grandi cazzate. Immense. Sul fascismo, diciamolo subito. Va presa come tale. Secondo Vauro, Grillo è un coglione mascherato, non lo dico io, lo dice Vauro. E all'articolo 21, la libertà di informazione, perché a me vedere un coglione mascherato che corre su una spiaggia, quando quel coglione mascherato rappresenta o dovrebbe rappresentare il 30% dell'elettorato, non mi diverte, mi fa spavento. Gli uomini mascherati, senza faccia, mi fanno paura. Vauro. Vabbè, su, dai. Vauro, quello mascherato, dai, era un gioco, era non è che uno va mascherato, ma sì, una trovata pubblicitaria, infatti prime pagine, foto, eccetera. Ma di che parliamo? Su, parliamo di cose serie, degli uomini mascherati con gli occhiali. No, ma infatti il dramma sono... Aspetta, fermo lì, Oliviero Toscani, buonasera Oliviero. Buonasera, state bene? Beh, siamo in forma, aspettando il conclave ormai aspettiamo solo il conclave. Ne avete di carne al fuoco adesso? Papi, Grilli, Bersani, Berlusconi, l'avete tutti. Vabbè, tutti, questi già ce l'avevamo prima in realtà, adesso ci sono quelli nuovi. Sì, ma adesso nella migliore forma. Aspettiamo solo il conclave, lì pure possono venire cose interessanti dal conclave. Via un papa, ne fanno un altro, non ci cambia niente. Ma a te interessa il conclave oppure non te ne frega niente? Non è che cambi molto, insomma. Beh, finché la Chiesa non apre i preservativi. A meno che dica, arrivi un nuovo Papa e dice, abbiamo Papa, uno che dice, cambierò tutto. Bravo. Fantastico. Apre i preservativi. No, cambieremo tutto. Sì. Insomma, ci vuole un Papa che... Un Beppe Grillo della Chiesa. Ci vuole, non so, Marco Pannella, per esempio. È impossibile. Perché? Ha distrutto qua, l'unico serio che ha fatto le cose serie. Ma che serie? Piglia meno lui e la Bonino, l'abbiamo ma che i soli si così. Ma si sono isolati da solo, preferiscono la Rosi Pindi, la Finocchiaro e la Bonino, è stranissimo. Però caro Oliviero, ci vorrebbe un papa che aprisse seriamente al preservativo ai gay, dai, su, diciamo, è logico, ma è chiaro, uno che apre così magari piano piano, no? Ma l'ipocrisia della Chiesa ormai è la loro forza, no? Dico, per cui non cambierà niente, diciamo la verità. Saranno... assolutamente niente, se cambia qualcosa sarà in peggio. Ma tu ci credi che esiste una banda dei pedofili in Vaticano, come si legge? Ma dico, ragazzi, ragazzi, Bersani, vabbè, abbiamo imparato, ma ragazzi, tutti vestiti da donna, non c'è una donna. Fra di loro, ma non è, cosa vuoi fare? Mari Night, no, uguale, no? Cioè? Tutti uomini, già discriminanti del sesso femminile, del genere femminile, sì, non le vogliono. Sì, sì. Tutti fra di loro, vestiti da donna, con le scarpe rosse e verdi. E che fanno? No, e che fanno? E che vuole che facciano? Che ne so? Non so io, si vorranno bene, il senso dell'amore, non so io. Comunque io parlo così, sono veramente ateo, no, di più. Sei più che ateo. Mi sono mai sposato in chiesa, non ho mai battezzato un figlio, proprio non c'è, io proprio non c'entro con loro. Ah. Purtroppo sono stato battezzato, ma avevo due giorni e non ho potuto ribellarmi. E perché non ti sei di sbattezzato? A tre giorni, allora... Fallo adesso, no? Sbattezzati pure tu come fa. Ma io sono sbattezzato, ma figuriamoci, trovo la cosa più ridicola del mondo. Pensa, andare in paradiso con te e Parenzo, non è possibile. Con tutti quegli altri ancora per l'eternità, pensa che palle, non se ne può più. Senti, senti Oliviero, ma secondo te tu hai chi hai votato innanzitutto? Grillo? Grillo, ma lo sai bene, sei stato il primo. Prima che ti decidessi tu, ti avevo detto che io voto Grillo. Sì, ma io tanto per motivi diversi dei tuoi, o forse uguali, che ne sappiamo, forse uguali. Io ho votato Grillo solamente per arrivare a un obiettivo, l'abolizione totale del finanziamento pubblico ai partiti. E vedrai che ci arriveremo. No, io neanche per quello. Io ho votato Grillo perché... è uno scossone, cioè vabbè, ho capito. Ci sono tante cose sbagliate che Grillo dice, delle cazzate. Bravo, che non faremo mai, però 30% rimette in discussione. Sì. Allora, ma dovrebbe fare l'accordo con Bersani o no, secondo te? No, io darei l'incarico a Grillo, perché Grillo non dà la fiducia a Bersani dopo che gli ha detto che non vale niente, nessuno vale qualcosa. Miliardario. Bisogna dare la fiducia a Grillo, è lui che deve dimostrare di ottenere la fiducia. Scusa, Sì, no, tu sei della linea Emiliano, il sindaco di Bari, dice? Non lo so io. Ma chi è? Ha detto questo? Sì, vabbè. Sì, lo conosco, ha detto questo. Sì, ha detto, bisogna dare l'incarico, uno del PD, sindaco di Bari, bisogna dare l'incarico a Grillo. È logico, è lui che deve ottenere la fiducia. Perché lui la fiducia a Bersani non la darai, ha ragione, non la darei neanch'io. Perché? Dopo tutto quello che gli ha... Ma dopo tutto... Grillo esiste perché non ha avuto fiducia dei governanti di prima. È vero o no? Sì, e sì, allora... assolutamente. Così. E allora, perché deve dargli la fiducia adesso? No, ma è logico, infatti non accadrà, e non accadrà. E Bersani bisogna dare l'incarico a Grillo e dici adesso vediamo cosa sei capace di fare. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Certo, il personaggio più incredibile in queste ore si chiama Nicola Vendola, detto Nicky Vendola, caro Parenzo, il quale prima delle elezioni questo diceva di Grillo. Berlusconi e Grillo siano, diciamo, tra di loro complementari e rappresentino un magma di subculture populiste. E oggi con Grillo che apre ai fascisti di Casa Pound siamo davvero a una disvelazione, a un'epifania. E adesso invece parole di miele nei confronti di Grillo. Come mai? Come mai? A Grillo che cosa vorrebbe dire? Che ho capito il suo approccio e credo che dobbiamo addestrarci a stare dentro quell'approccio. Dobbiamo rispettare il nostro interlocutore. Lui ci propone un gioco nuovo, uno schema di gioco nuovo. Ci propone uno schema nuovo, dobbiamo rispettarlo. Oliviero, dimmi tu qualcosa su questi cambiamenti di opinione repentini. È il classico italiano che salta sul carro dei vincitori, come tanti italiani adesso. Sì, Grillo, però va bene. Prima era un cretino, un imbecille, adesso invece va bene. Allora siamo uno strano paese, ma poi Vendola parla sempre come se stesse facendo l'esame di maturità, non lo so, questo suo modo di parlare, barocco, antico, è vecchissimo, ha 300 anni. La gente non capisce nulla, su, dai. Io ma appunto, così, fa, vuole, cosa fa il poeta, ma in un modo così kitsch, kitsch, sai cosa vuol dire? Kitsch, kitsch, kitsch. Con l'orecchino, con le cose ormai... Quelli che hanno l'anello al dito pollice, non basta, come sono le donne che si fanno gonfiare le labbra col silicone. Non cioè? Si può portare l'anello al dito pollice. Perché lui c'ha l'anello al pollice? Sì, è ridicolo. È peggio che al naso, insomma. Lorenzo? Ognuno ha le sue fregole, no? Io per esempio vedo uno con l'anello al dito pollice, ma da dove viene? Ma scusa, ma è un look, è un modo di essere, sì. È una scelta di vestire. No, ma io sono liberissimo, figurati. Però il è mio. Una cafonata, dici tu. Il problema è mio, non è suo. Cioè una cafonata, secondo te? Ma come vai a mettere l'anello? Già mettere un anello anche da matrimonio, trovo ridicolo, non si mette. Sì. Un uomo non deve mettere anelli. Sì. No, è ridicolo. Ma io posso essere d'accordo, va meglio l'anello al pollice che i doppio petti di Berlusconi e le... Vabbè, quello è un altro piano. È uguale. L'anello è un estetismo, un abito, Berlusconi si veste e mette il doppio petto. A parte il fatto, Parenzo, tu staresti benissimo con un doppio petto di Berlusconi. Saresti molto uguale, saresti finalmente più credibile, dai. Senti, Oliviero, ma alla presidenza della Repubblica chi vorresti? Siccome hanno proposto anche piano, perché non te che sei un fotografo? Cioè, da un architetto... No, ma io sono vecchio. Sì, ma poi tu che faresti al Quirinale? No, ma poi un disastro, non ho la preparazione. Se non ce l'ha Renzo Piano, figurati. Ma sì, e poi io non sono democratico, io capisco, non sono democratico, niente a fare, perché tu lo sei. No. Parenzo lo è. Ma Parenzo sarebbe un po' più adatto. No, siamo ancora indietro, perché? Che la strada alla democrazia non è democratica. Noi siamo ancora a livello di non essere democratici perché vogliamo la democrazia. Vabbè, ho capito, adesso quella abbiamo però, non è che possiamo... Sì, no, la democrazia è fantastica, non c'è niente... Cioè, non mi dire che tu ti vergogni di votare come vota un'altra persona, che ne so, che ha meno preparazione di te o che meno... No, ma figurati, anzi, trovo che l'altra persona che ha meno preparazione forse ha più diritto al voto, in un certo senso. Intanto siamo tutti appesi a una frase di questo nuovo capogruppo, questo Crimi, che non è Rocco Crimi del PDL, un altro Crimi, sì. Il quale dice, del Movimento 5 Stelle, non daremo la fiducia a un governo di partiti. Allora cerchiamo di decrittare questa cosa come se avessi detto però un governo senza i partiti, cioè un altro governo tecnico, magari guidato da Rodotà, come dicono alcune persone vicine a Beppe Grillo potrebbe dare l'appoggio, la fiducia. A cosa siamo ridotti? Sentiamo Crimi. Una fiducia a un governo politico non lo daremo, a un governo dei partiti non la daremo. Well now, little mosquito, there must be. Capito Parenzo? Sì, ma non c'è nulla di nuovo, la strategia è chiara, ridare potere al Parlamento e fare un governo di prorogazio, come ci ha spiegato il professor Becchi. No, prorogazio non si può, su, non si può. Ma non si può. Ma non si può. No, ma perché dovrebbero dare fiducia ai partiti, scusa? Ma dopo no, che non li hanno massacrati. Ma non devono dare la fiducia a loro, loro devono dare a loro la fiducia. È logico, sono un po' meno di un terzo dell'elettorato. Senti, quindi... Toscani, ma quando senti adesso Bersani offrire la sponda a Grillo, cercare di inseguire Grillo, mentre durante la campagna elettorale se ne sono detti di tutti i colori e Bersani ne ha detti di tutti i colori a Grillo, cosa pensi? Penso che sembra un vecchio cardinale. Cioè? Sembra un cardinale Bersani, pensalo vestito di rosso, porporato, perfetto, come parla, con le manine. Non so io cosa gli è successo poi a Bersani, ma credo che quel partito lì rovini tutti, anche i migliori. Bersani era bravissimo all'inizio, quando era presidente di regione, era un uomo fantastico. Cioè, non aveva paura delle cose, dell'apparato, e non so cosa gli è successo con l'apparato. Lo vedete quando parla, continua a mettersi e togliersi gli occhiali, forse non ci può vedere bene. Ah, tu dici, Non vede più, poveretta, non vede più. No, e poi qualche birretta, no? Grand'uomo, devo dire, un uomo di un'onestà... Specchiata, specchiata. A Milano si dice un po' pir, in certo senso, no? Non è un insulto. Cioè un po' un pirlone, dici tu. Un pirlone. Ma ormai è finita, Piacenza. Su. Tra l'altro anch'io, i miei parenti arrivano da Piacenza, forse... capisco bene l'essere cioè, di Sirlone. Cioè che a Piacenza sono sì, un po' bravi. Capisci, va, parte da Bettola dove lui è nato, però lì votano Berlusconi, quindi non ha capito niente. Non capisce la comunicazione. Madonna, ma diglielo, cioè, tu, è finita, è ma finita. Ma gliel'abbiamo detto, a 10 anni meno di me sembra mio nonno, ma non è possibile. Vabbè, Oliviero. Cosa sta succedendo in Italia, Parenzo? Che sta succedendo? È un Parenzo, casino. Anche tu, hai 30 anni meno di me. Hai 30 anni meno di me, ma potresti essere mio figlio a tua età, che sono siete vecchi come i miei figli. No, Parenzo ha 30 anni meno di Toscani, ma sembra il fratello. Il fratello. Vabbè, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, vabbè, ciao ragazzi, divertite soprattutto, ciao. Giornale Radio 800 24 00 24, la Zanzara riprende subito dopo. Ho capito il suo approccio e credo che dobbiamo addestrarci a stare dentro quell'approccio, dobbiamo rispettare il nostro interlocutore. 1, 2, 3, la Zanzara è quell'odioso insetto. Fabrizio Cicchitto nutre seri dubbi sulle possibilità di David Parenzo di pagare una cena. Vabbè. È la realtà. L'ex capogruppo alla Camera, magari sarà riconfermato, del PDL, dice sicuramente la cena non la paga Parenzo. Non vorrei gettare lì nello studio una bomba nucleare. Intanto, professor Becchi, scusi, le tolgo il video. Si beve lì all'Open Colonna. Si deve mangiare, niente superalcolico. Ma chi è che paga poi? Non Parenzo, certo. Il professor Becchi è arrabbiatissimo con quello che state dicendo da studio. Ma no, in realtà non ho capito quasi niente, perché qui l'audio. Come parlano delle elezioni del presidente della Camera del Senato? No, è arrabbiato con te. Ma su questo ha ragione Cicchitto. Ancora Cicchitto contro Becchi, sentiamo, mitico professor Becchi, non me lo toccate! Devono anche ottenere il fatto che i grillini votano la fiducia. Votano la fiducia. Escono dalla Camera, escono dal Senato. No, perché se escono dal Senato usciamo anche noi e manca il numero legale. Esatto. Capisco come uscite anche voi queste sono facendo venire meno capisco che la legislatura di fatto. Capisco che anche questo sono ignobili cose. Ma cosa hanno fanno parte delle regole. Fanno parte delle regole del gioco. Titoli del TG3, apertura sembra dei grillini a un governo tecnico. Stanno giocando come il gatto col topo, no? Ma certo, stanno giocando, hanno in pugno la situazione, come mi piace questo. Sono esaltato da questa situazione. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Grillo con Casaleggio alla riunione dei neo parlamentari 5 Stelle, avanti sulle nostre proposte, non voteremo la fiducia a un governo dei partiti. Scelti 2 capigruppo, Crimi e Lombardi, per ora dicono solo un confronto sugli aspetti organizzativi, il 10 nuovo incontro, Dario Fa ospite del TG3. L'out-out del PD e 5 Stelle, pronti a discutere su 8 punti, non cercate pretesti, Alfano attenti a non portare il paese a sbattere. Non cene eleganti, ma un collaudato sistema prostitutivo e univoci elementi di colpevolezza per il Cavaliere. Al processo Rubi, la durissima requisitoria del pubblico ministero. Telecom ha deciso, la 7 passa a Urbano Cairo. Niente da fare per Della Valle e Fondo Clessidra. Il nuovo editore ha preso una patata bollente. Prime riunioni in Vaticano per eleggere il nuovo Papa. La prossima settimana l'avvio ufficiale del conclave nella Cappella Sistina. A un anno dalla scomparsa di Lucio Dalla, nel giorno del suo compleanno, questa sera a Bologna, concerto evento per ricordarlo. Ciao a tutti, sono Paolo Bernini, ho 25 anni, sono laureato in tecnologia della comunicazione. I temi che mi stanno cari sono tutela degli animali, la città dello Stato, che sono vegano e sono disiscritto dalla Chiesa Cattolica. Disiscritto dalla Chiesa Cattolica, cioè si è sbattezzato, neodeputato grillino. Andiamo, te la ricordi quella dell'Aloe? Ma scusa, come si fa a sbattezzarsi? Non lo so. Adesso lo chiediamo fra poco con tuo amico, se si è sbattezzato. Tu sei sbattezzato? Sì, vabbè, non me ne frega niente di sbattezzarmi. Non lo farei mai, non lo farei mai. Mi sembra una cosa assurda, uno si sbattezza, ma che vuol dire? Sì, non c'è bisogno. Ma non c'è bisogno, effettivamente. Diciamo la verità, non c'è bisogno, dai. Anche se uno, bello, se uno non ci crede, ragazzi, cioè... A me questi ragazzi invece, guarda, io sto cambiando. Questi ragazzi mi piacciono moltissimo. Anche quella che ha detto che il fascismo aveva un alto senso della famiglia? Sì, è tutta gente molto pop, è bellissimo, è l'inesperienza al potere, è meraviglioso, è molto Indiani Metropolitani del 1977, è proprio situazionismo puro, quindi è meraviglioso. Senti, non questa dell'Aloe, te la ricordi la daga, quella dell'Aloe? Pupari. I due pupari mi fanno paura, i due pupari. Ma quali pupari? Ma falla finita. Ciao. Sono Federica Daga, ho 36 anni e vivo a Roma da 2 anni e mezzo. Questa che vedete è una fontanella di acqua pubblica. Adesso ci spostiamo, andiamo più in giù e vi faccio vedere un paio di cosette. Allora, vi mostro questa pianta. Questa è una pianta di Aloe Arborescens. È una delle varie varietà di aloe. Le sue caratteristiche sono... che è una pianta antiossidante e anticancerogena. Io voglio ricordare che c'è anche la coppetta, non so se ce l'abbiamo, la coppetta, sentiamo. Più in là abbiamo messo su una pianta di limoni, con 3 di quei frutti ci possiamo fare un detersivo per i piatti per la lavastoviglie che non inquina. Faccio vedere un altro aggeggino, che è questo qui. Questa si chiama Mooncup, è la coppetta della luna e aiuta le donne a raggiungere l'obiettivo dei rifiuti zero. Queste piccole cosine per dire che il cambio del proprio stile di vita è una delle prime cose che dobbiamo fare se vogliamo realmente cambiare il mondo. Diciamo che la nostra vita può essere un po' più virtuosa anche per aiutare tutte le persone. E la fame del peccato è ingozzarsi d'ignoranza, non sentirsi responsabile, prendere sempre la distanza. E se si libera la mente dai dogmi della casta, non si è più mai... Vai Emiliano, attacca! Comincia a dire basta e vestiamo le coscienze prima che sia tardi. Oddio, non sento niente, ragazzi. Vai, vai Emiliano, vai che sei forte! Vai! Di guerra, sangue e libertà, e spolvera la mente, poi credi a ciò che vuoi, magici. Bravo, bravissimo, vai! Senza realtà, che grava su di noi, salvati! Ragazzi, sto per strada! Il cappellaio matto è con noi, applausi, applausi Emiliano Martino, nuovo re del web. Ma... caro Emiliano, numero uno, fammelo abbracciare fortissimo. Raccontaci questi 2 giorni, come li hai passati, subissati dai media, da un'attenzione. Io voglio bene, io voglio fisicamente, allora, io guarda, voglio fisicamente sono bene. Sono stati 2 giorni, allora... Innanzitutto, se mi volevate far apparire pazzo, ci state riuscendo, perché io sto per strada, sì, e mi avete fatto cantare al cellulare. Ma sempre col cappello, stai? Cioè, guarda, sì, ma io sono normalmente... Ma anche quando dormi? Cioè, anche quando dormo, no, a parte gli scherzi. No, dai Emiliano, quando dormi no, dai. Quando... No, quando dormo no. No, però è un indumento... Cioè, vai al bagno? Vai al bagno, c'hai il cappello? No, cerco di evitare al bagno, per evitare che si attacchino all'indumento odori malsani. Insomma, ah, così. Ecco, ecco. Ma tu sei molto salutista oppure uno zozzone? Sono molto salutista, in realtà. Ma, no, ma lo so, l'ho capita questa cosa qua. Anche queste unghie lunghe, in realtà, no? Quelle mi servono per suonare. Per suonare. Insomma, esatto. Ecco, ma tu che fai nella vita, oltre ad essere un attivista del Movimento 5 Stelle, caro Emiliano? Sì, guarda, sono un musicista. Un musicista, ma riesci a campare oppure no? Diciamo, io la definirei sopravvivenza. Ah, la sopravvivenza, come leader dei Gaia Groove. Andate tutti a sentire i Gaia Groove, ti facciamo una grande pubblicità. I Gaia Groove. Senti un attimo, però, dimmi la verità, caro Emiliano. Ma in rete circolano anche delle cose strane. Come hai chiamato una volta il Partito Democratic? Il Partito Democratico. Ah, il Partito Democratico, ma in rete circolano tantissime cose. No, il Partito Democratico io non l'ho mai chiamato e poi non posso... L'hai accostato a una bestemmia. No, io ho detto, ho fatto questa battuta, tra l'altro senza scrivere la bestemmia in sé, perché io, oltre a essere salutista, non bestemmio, per esempio, contrariamente magari a quello che si può pensare. Però ho detto che... Ma ti sei sbattezzato anche tu? Cioè, diciamo, le due lettere che definiscono il Partito Democratico, cioè PD, sono facilmente associabili a una nota. Ho capito, però così è come farlo, però. Vabbè, ma cioè, è un'affermazione veritiera, insomma, dopo tutto. Cioè, in che senso? Anzi, io nella battuta in sé dicevo che sicuramente molte persone si sono accorte che le due. Ma veramente chi l'ha detto? Molte persone? Io non ci ho mai pensato. Io non ci ho mai pensato. Comunque, lasciamo perdere che è una cosa un po' scivolosa. Resta lì, Emiliano. Resta lì. 800-24-00-24. Gregorio da Bologna. Buonasera, Gregorio. Salve, sono un pentito per aver votato il Movimento 5 Stelle. Già Senato. Pentito, sono passati 3 giorni. Sono passati. Sì, pentito perché. Purtroppo la politica è anche l'arte del compromesso e aveva ragione pari il buon Parenzo quando diceva che Grillo è... Cioè lei è uno di quelli che vorrebbe l'accordo con il Partito Democratico? Un accordo con qualsiasi movimento politico abbiano scelto gli italiani, comunque uno per garantire un minimo di governabilità. Però scusi Gregorio, lei ha votato senza conoscere, perché c'era scritto molto chiaramente che non si sarebbero alleati con nessuno. Cappellaio, rispondi tu però, signore. Sì, sì. No, è vero, cioè nel senso, a me dispiace, diciamo, se il signore si è pentito, perché secondo me ha fatto una gran cosa, diciamo, scegliere il Movimento 5 Stelle, considerando che, per come la vedo io naturalmente, era l'unica speranza. Ma i partiti cosa sono per te, caro Emiliano? Dillo, delle associazioni a delinquere, cosa sono? Adesso, dillo chiaro, dillo chiaro. Allora, i partiti sono una struttura che ormai è così corrotta da essere diventata un cadavere ambulante, cioè nel senso ormai è una decomposizione di una serie di strutture che non funziona più. Cadavere ambulante, ha capito Gregorio, però non è che lo dicevano, non è che lo dicono oggi, lo dicevano pure prima, uno non è che si può stupire, caro Gregorio, no? Gregorio? Sì, scusi, sono interrotta. No, io ho votato per protesta, però mi sono pentito perché un minimo di lungimiranza, un minimo di cambiamento d'idea non vuol dire essere delle cattive persone, questo lo dico Grillo, vuol dire anche tenere conto della situazione economica, lavorativa di tutti gli italiani e tentare, se non proprio abbracciarsi e baciare Berlusconi, comunque sia un minimo di collaborazione si può anche fare. Ecco, ho capito benissimo. E la fame del peccato è ingozzata. Cicchitto dà del pezzo di merda a Eugenio Scalfari, sentite. Scalfari è un pezzo di merda. Una vescica di veleno. Non si è più. Hai capito? Ma perché? Ma in che contesto l'ha detto? Ma non lo so, ma è un audio che abbiamo preso dal fattoquotidiano.it, sempre ricco di queste cose. Guarda, sei veramente un cretino, guarda, è un pezzo di merda, guarda, detto con rispetto. Ma come con rispetto? No, ma non ha detto con rispetto in realtà, facciamo risentire. Cicchitto che dice Scalfari, fondatore. Ciao, Scalfari è un pezzo di merda. Una vescica di veleno. E la fame del peccato è ingozzarsi d'ignoranza, non sentirsi responsabile. È responsabile prendere sempre la distanza, che se si libera la mente dai dogmi della casta, non si è più marionette, si incomincia a dire basta. E destiamo le coscienze prima che sia tardi, oddio. Prima che un banchiere infame gridi in merda, è tutto mio. Riprendi con vigore la tua dignità. Com'è la cosa, Emiliano? Com'è la cosa? È tutto mio. Com'è che fa? È tutto mio, esatto. Prima che un banchiere infame gridi merda, è tutto mio. Io ci credo molto in questo testo. Emiliano Martino, grazie. Grazie, leader dei Gaia Group, il cappellaio matto. Grazie, a presto. Grazie, a presto. Ciao. 800-24-00-24, questa è la Zanzara. Parenzo, dove diavolo sei? Dove diavolo sei? Il signor Cappellaio Matto è un grandissimo personaggio, immenso. Questa è la modernità, questa è la nuova politica, questo mi piace, questa è la nuova politica. Basta quel Cicchitto, basta quei bibbi. A proposito di Cicchitto, ma sai che ha dato del pezzo di merda a Scalfari? Ancora, l'hai mandato 50 volte, rimandalo ancora, però, perché lo dici proprio con cattiveria questa volta, sì, non sì, con ironia, sì. Mi sembra, dal tono. Io sono un grande esegeta del professor Cicchitto. Scalfari è un pezzo di merda. Una vescica di veleno. Cioè, come ha fatto? Tu che lo sai imitare bene, come ha fatto? Guarda, guarda, Scalfari è proprio un... qui cambia voce, è proprio un pezzo di merda. Cioè, sulla parola pezzo, si sofferma sulla parola pezzo più che sulla merda, quasi a sottolineare il pezzo, cioè la quantità. Adesso, questo è, come dire, no? Per sì, analizzare sì. Il linguaggio. Beh, signor... molti pigliano per il culo i grillini che sono entrati in Parlamento oggi con queste presentazioni. Mi sono sbattezzato. No, no, questa è la parte più bella. Questo è spontaneismo, questo è situazionismo. Però io vorrei far sentire il signor Isidori. Il brutto sono quelli che tirano le fila. Quindi loro si devono ora emancipare. Ma perché, scusa, non esistono negli altri partiti? Non esistono quelli che tirano le fila? No, non ho capito. Non esistono. No, no, no. Non esistono. Devono tagliare quei fili. Ma che figurati, legano figurati, a mangiafuoco. Figurati. Qualcuno fa il nome intanto. No, Isidori, perché ci sono i grillini, magari ingenui, no? Argilla pura, come ho detto io, e lo ripeto, persone piace, piace molto. Non lo so, pulite, non lo so, vedremo. E però c'è anche, Isidori. Isidori della Lega. Fino a qualche secondo fa c'era pure Isidori, risentiamo. Cosa ne pensa, è una cosa che riguarda il sociale, dei matrimoni gay? Per carità, non me ne parla. Sono gente che per me stanno male, purtroppo non è tragurarli, per me non è normale. Ah, non sono normali, dice gli omosessuali? Non è normale, è nato sfortunato. Per me è una persona nata sfortunata. Se perché dice sfortunato? Perché se non sappiamo se è uomo o donna. Non sappiamo se è uomo o donna. È stupendo nell'intervista di Sabrina Nobile alle Iene, questo Isidori, che era stato scoperto qualche mese fa per una favolosa fiction alla Camera dei Deputati, perché di fiction si tratta, quando pronunciò quelle parole sul carcere. Per fortuna non è più deputato, mi pare, no? Qualcuno fa il nome di Amato, che oggi in una lettera a Repubblica dice di non essere casta. Ora va bene tutto, che è un grandissimo scienziato della politica, costituzionalista, va benissimo, preparatissimo. Dice però di non essere casta. Di non essere casta. Sentiamolo quando fugge a Parenzo. Era il 23 aprile del 2011, quasi 2 anni sono passati. Professore, possiamo farle un paio di battute? No. Questione delle pensioni? No. Professore? Non faccio battute di nessun genere. Sulle pensioni, no, sulla riforma? Nulla, nulla. No? No. Ci avete politici in servizio. No, perché volevamo capire per il futuro proprio del paese sulla questione delle pensioni. No, non faccio. Dice di destinare una parte del suo vitalizio in beneficenza, va benissimo. Ovviamente la questione della beneficenza la si può ritirare, no? La si può bloccare. Non faccio nessun tipo di battute. Non è che devi fare una battuta spiritosa, doveva rispondere a una domanda, non doveva fare battute. Giovanni da Padova, 800240024, Giovanni, vada. Buonasera. Allora? Allora, io sono uno di quei sprovveduti che ha votato per Bersani. Sì, perché sprovveduti, scusi? Lo sa perché l'ho votato? Perché? Perché secondo me è una persona seria, per bene. Va bene, poi? Poi anche ha delle idee, diciamo, no? Che le dice senza tanta fanfare, sì. Dice dalle nostre parti. E secondo me, magari, se ci fosse qualche giornalista, non dico tutti, perché è una cosa impossibile, qualche giornalista che magari spiegasse tutte le troiate che dicono in giro tutti gli esponenti dei vari partiti, forse noi cittadini sprovveduti come me avremo la possibilità di scegliere più accuratamente la classe politica. Se invece noi andiamo dietro esaltate a chi la dice più lunga, più larga, più gridata, lì poi la gente vota Grillo, vota tutte queste cose. Va bene, Giovanni, ho capito, facciamo sentire però quello che ha detto Bersani sul finanziamento pubblico dei partiti, perché è la proposta principale di Grillo. Se dici no a questo, è inutile cercare un'alleanza, a parte che oggi questa alleanza è naufragata definitivamente. Ma sentiamo Bersani che dice sì al finanziamento pubblico, altrimenti solo miliardari, che è una cosa che, vabbè, dopo la commentiamo. Non sono disposto a rinunciare a un principio, fosse anche per un euro, a rinunciare a un principio che da Clistene in poi è un principio collegato alla democrazia, e cioè che la politica ha una qualche forma di sostegno pubblico, se no la fanno solo gli ottimati e i miliardari. Non sono disposto a mollare su questo punto. Allora, che la politica senza finanziamento pubblico la possano fare solamente gli ottimati, i miliardari, lasciamo perdere Clistene, è una cosa non vera, tant'è che la prova di questo sono i grillini, i quali entrano in Parlamento senza un euro di finanziamento pubblico. Beh no, ma grazie alla, alla superstruttura della ditta. Sì, ma non, ma non c'è un euro di finanziamento pubblico però. No, che c'è? C'è il finanziamento pubblico, sì o no? Miliardario. No, no, hai ragione. Un ma chi è il miliardario? No, chi è il miliardario? Ma chi è il miliardario? Qui messi, ma chi è il miliardario? Con me non usi le parole di Bersani. Usi le parole di Bersani. Usi parole di Bersani, miliardario. Con me non messi nel torbido. Con me non messi. Vai, vai. No, no, giovanotto? Giovanotto? Giovanotto, giovanotto, giovane camerlengo, con me non vesti nel torbido, non vesti nel torbido, perché se non ci fosse stata la piattaforma della ditta Casaleggio and Grillo, per loro sarebbe stato molto difficile emergere e fare poi quello che hanno fatto. Grazie, certo, a questo sono riusciti a farlo. Quindi vedi che i soldini, un investimento iniziale di questi due signori c'è stato sicuramente. Quindi ha ragione. Soldi privati, soldi privati, devi andare a bussare alle porte. Toc toc toc. E poi che male ti fanno ho i soldi dei miliardari? È un problema, sono un problema i soldi dei miliardari. Bisogna fare toc toc alle porte. Mi date i soldi? Propongo questo, questo, questo e quest'altro. No, tant'è che un esponente di punta, aspetta, un esponente di punta del Partito Democratico come Matteo Renzi propone da tempo l'abolizione totale del finanziamento pubblico dei partiti, cioè non lo dice uno di destra, un milionario, un miliardario. Vabbè, io su qualcuno che va, da... qualcuno che va a fare toc toc, com'è che fai tu ogni tanto? No, toc toc, mi date i quattrini per fare politica? Ho queste idee, poi... tutto trasparente. Penso che un minimo di finanziamento pubblico ci debba essere per garantire pari accesso a tutti. Ma quale pari accesso? Ancora con questa stupidaggine, dai. Sì, sì. Maria Pia da Bologna, buonasera. Buonasera, senta, dica. Devo chiudere la radio o la posso tenere bassa? Ma scusi, cara Maria Pia, lo diciamo da una vita, lo diciamo da una vita che va chiuso tutto, va chiusa la radio. Sì, no, no, no, l'ho chiusa, mi scusi. Vada, vada. Ecco, no, no, dunque, io volevo dire che in questi giorni sì? si è data la stura all'armata Brancaleone di Grillo. Di Grillo, si sentono solo loro, loro i più bravi, loro fanno questo, loro fanno quest'altro. Ma chi l'ha detto? Non è vero. Se lei mi fa parlare, dottor sì. Crociani, non sovrappone sì, la sua voce alla mia. Ma qui non è una trasmissione come alla mia, come io le dopo altre. Non capisco più niente. Ecco. Vabbè, allora? Allora, possibile che si siano coalizzati tutti contro Bersani? Contro Bersani lui è la pietra dello scandalo, che, mentre invece è uno dei politici più onesti che esista. Avrà sì. fatto degli errori, certo. Certo, ma degli errori in buona fede. Perché, la politica, la politica, cara Maria Pia, si fa con i numeri. Se uno prima aveva un progetto politico e questo progetto politico è stato bocciato ma perché non è c'è... vero. Ma come no? Cioè... Ma non è vero, perché come no? Bocciato sonoramente. Bocciato aveva un calendario politico, aveva fatto dei progetti. È stato bocciato, che questo... poi ha tirato fuori Grillo e ha scoperto l'acqua calda. Erano tutte è stato cose che aveva già pensato. Ma quando Bersani? Mai? Ma a parte che non è vero, e poi comunque no. il progetto di Bersani è stato bocciato dentro le urne perché deve ringraziare il Porcellum che ha quella maggioranza lì. Ma insomma, il progetto politico, quello di una maggioranza del PD, SEL, sia la Camera che il Senato, non c'è. Per cui si deve passare alla mano. Comunque è sempre il primo partito, comunque il PD. Quindi io ho votato Bersani, sono contenta di averlo votato e lo rivoterei. Ecco, però i punti che io volevo toccare. No, ma non ci sono punti da toccare, la ringrazio. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Devo fare, ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a trasformare? Sandro da Novara, buonasera Sandro. Buonasera a lei. Senta, la prima considerazione che volevo fare è che io penso che le elezioni del 24 febbraio ci abbiano restituito una situazione veramente molto critica. Però di fronte vabbè, a ma che novità, insomma. Ha ragione. Volevo solamente dire che ogni forza politica poi ci prenderà le proprie responsabilità. Ma è questa, basta quello con questa storia, ogni forza ragione, politica ragione, si deve assumere responsabilità. Ma che cos'è? Una roba scontata, dai. No, no, vabbè, questa era una premessa. Quello che volevo dire, Cruciani, è quello che mi fa veramente incazzare, sì, è il suo divertirsi. Il suo, e che devo fare invece? Mi devo deprimere? Questa, certo, godo come un pazzo. Sì, godo, godo, godo. È assolutamente inaccettabile. Ma che inaccettabile, ma che vergognosa. Che su una radio di questo tipo vadano in onda questo tipo di considerazioni. E se siamo in questa situazione di merda, Cruciani, è colpa anche sua. Ma va, faccia finita. Che non gli danno un calcio nel culo, nelle palle e lo buttano fuori. Ma lei è malata di mente. Ma lei è bacato. Con la signora di prima, sì, di chiudere il telefono in ma faccia. Ma quale chiudere il telefono in faccia? Gli ha chiuso il telefono in ma faccia. Ma quando mai? Si vergogni. Ma che è dici? Un pezzo di merda. È un pezzo di merda. Se questo paese, sì, va a ramengo, è colpa anche di persone come lei. Sì, sì, sì. È colpa si anche di persone si è sfogato? Come lei. Si è sfogato? Certo. Ti è sfogato, è frustrato? No, io sono tranquillo. Nella vita com'è? Un po' frustrato, mi sa. Sono contento, soddisfatto. Ho una bellissima famiglia. Soddisfatto. Mi faccio il culo dalla mattina alla sera perché credo in quello che faccio. Sì. Credo politicamente. E allora? Credo dal punto di vista. E allora? Ma se io mi diverto, che vuole da me? Scusi, non ho capito. Se io mi diverto, cosa vuole da me? Cosa vuole da me? Tutti quanti devono essere incazzati come lei? Certo, perché c'è la gente. E perché? Se fa tantissima fatica e allora, arrivare alla fine e allora mese. Invece io mi diverto, allora mi diverto perché c'è il caos politico, allora mi diverto perché c'è il caos politico, allora no Cruciani, sono allora personaggi come lei, sì, che portano alla rovina questo paese. Ma che rovina questo paese? Ma la faccia finita. Ma la faccia finita. Chi porta alla rovina questo paese è chi non paga le tasse, chi non ha senso civico, cioè io non butto una carta per terra, capito? E pago le tasse regolarmente, ha capito? Certo. Lei è tutto da vedere. Io faccio tranquillamente, chi mi conosce, sì, sa benissimo cosa sono io. Bene, lo spero. Quello che lei non si può permettere di usare la radio per fare quello che cazzo vuole. No, io invece sì. È esattamente questo faccio, esattamente questo. Le dispiace? Le dispiace? No. E allora? Assolutamente no. E allora? Assolutamente no. Ho solo espresso il mio parere. Sì, ma lei infatti io l'ho fatto esprimere tranquillamente. Allora lei perché ascolta, scusi? Perché io ascolto tantissime cose, leggo tanti giornali, sì, sento tantissime cose. Questa sì sera ho chiamato, sì, perché ha fatto quell'affermazione. Si vada a risentire che cosa ha detto appena ha commentato le notizie del TG3, quando ha parlato di un governo tecnico che forse potrebbe essere sì approvato ai grillini. Sì. L'affermazione di divertimento, di godimento che ha esternato è una vergogna. Ma perché? Che ho detto? Scusi, non ho capito. Ce lo vada a risentire. Sì, ma non ho capito, perché io godo del caos politico. Allora qual certo è il problema? Abbiamo un governo tranquillamente, non c'è problema no, in questo momento. Non c'è proprio nessun governo. Ma come no? C'è il governo, non si preoccupi. L'ha detto anche Napolitano, l'ha detto, non si preoccupi. Cruciani, ci abbiamo personaggi sì che godono in questa situazione. Sì, che io godo, sì, allora? O che si chiamino Cruciani. Sì, ma che c'entra Berlusconi? Che c'entra Berlusconi? Adesso devi mettere sempre in mezzo Berlusconi, cosa c'entra? Su certe cose cruciali, sì, come atteggiamenti, lei è molto simile a Berlusconi. Ma lei non ha capito nulla. No, io ho capito tante ma lei non cose ha capito nulla. Ho capito tante cose, Cruciani. Senta, ma se io mi... Scusi un attimo, Sandro, ma se io mi diverto in questa situazione di caos politico, perché a lei rode così tanto, scusi? Perché a lei dà fastidio? Perché a lei, perché a lei non sopporta questo? Che devo fare? La persona contrita mi devo mettere in penitenza? Devo stare lì con la voce preoccupata? Non abbiamo un governo. No, c'è l'impasse politica. No, c'è uno stallo. Oddio, è una situazione gravissima. Bisogna avere senso di responsabilità. Ma di che parliamo? Io mi diverto come un matto, mi diverto come un pazzo, ha capito? Sì o no? Mi diverto come un matto. Questo divertirsi. Sì, mi diverto. E si incazzi pure. Ovvio che mi incazzi. Infatti nella mia telefonata. Poi sì, ma non solo questo. Lei ha detto anche altre cose, eh? Ha detto anche lei è un pezzo di. Ma io me le prendo le cose, non si preoccupi, Sandro. Me le prendo. Ma ti rendi conto di cos'è la situazione? Me le prendo, le dico e le prendo, ha capito? Cruciani, ha sentito prima la notizia, sì, la Bristol a Bari entro metà 2014 chiude altre 800, chiude uno stabilimento. Benissimo. A casa altre 800 persone. E io mi diverto lo stesso, qual è il problema? Non per questo. Lo vado a raccontare. Ma non per questo, ma stiamo parlando di altre cose noi, Sandro, stiamo parlando di quel problema lì, caro amico, non stiamo parlando di quel problema lì. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada e cadono le ceneri della città qui sulla strada e passano quei passi amari che fuggono dai mali. Panfilo, provincia di Chieti, buonasera. Eccolo, mamma mia quanto ho aspettato. Vada. Volevo dire che io sono un grillino, sì. Sono un attivista, vivo in Abruzzo. E volevo dire a quella signora di prima che noi abbiamo speso 3.000 euro per fare una campagna elettorale per una regione, per far capire che i soldi non servono. E poi lo spread andrà su, avremo problemi di finanze economiche da tutte le parti ed ecco che arriva Bersani, Berlusconi, l'inciuccio e viva l'Italia. E dunque non ho capito, quale inciucio? Qui non si parla di inciucio. No, diciamo che stanno tutti premendo che vorrebbero un governo appoggiato da Grillo, ma sullo non statuto di Grillo, essere cubitali, noi non possono appoggiare nessun partito. Vabbè, si può anche cambiare, non è che è sempre la stessa cosa, non è sempre la stessa cosa. Si potrebbe in teoria anche cambiare opinione, solo che loro sono un po' più testardi. Guido, eccoci. Pronto? Pronto? Sì. Guido? Buonasera. No. Pronto? Sì, sì, no, non sono Guido. Sì, Gabriella da Milano, grazie. Gabriella. Sono io. Buonasera, dottor Cruciani, vero? Sì, sì. Ecco, no, io volevo dirle semplicemente una cosa. Io condivido il 99% le sue idee, non condivido molto il modo con cui le esprime, mi scusi. Non si può essere maleducati, perché mi pare che di maleducazione sì. Ce ne guardi, sia abbastanza. Io non sono stato per nulla maleducato, ho lasciato parlare la persona di prima. Ma lei ha praticamente attaccato il telefono. Sì, vabbè, ogni tanto attacco il telefono. E qual è il problema? Qual è il problema, Gabriella? Problema, non è nessun grosso problema, guardi, no. L'ho fatto tantissime volte, nessun, non è nessun grosso problema. Per me è un problema. E per lei è un problema, allora che chiama a fare? Allora che diavolo chiama a fare, scusi? Le dico con molto sì. Garbo. Lei mi dice con garbo, io rispondo con garbo. L'educazione non guasterebbe. Da senta, l'educazione a me non me la deve insegnare lei, ha capito? Beh, non me la deve insegnare, ha capito che non me la deve insegnare l'educazione? Forse sì, perché lei non ne ha molto, non gliel'hanno insegnata molto. Quello lo dice lei e non se la prenda con ma mia madre, perché altrimenti io, ma non sono l'unica che lo dice. E che pazienza, è pazienza, va è bene, pazienza. D'accordo. Pazienza. Lei è contento così? E non mette in mezzo mia madre, ha capito? O i miei genitori, sì, non gliel'hanno insegnata, chi è che me la doveva insegnare? Lei potrebbe essere anche tranquillamente orfano. Non so chi. Ma orfano sarà lei, no io. Ho detto potrebbe. Ah, ecco, potrebbe. Ho detto potrebbe. Che poi non c'è niente di male, che poi non c'è niente di male essere orfano. Per l'amor di Dio, io sono orfana da quel dì, per carità di Dio. Non c'è questo, però a me l'educazione, sia Pinco, sia Pallino, sia le suore di Nevers, sia il conte di Montecristo, a me l'hanno insegnata e mi hanno insegnato che sbattere il telefono. Io non ho sbattuto il telefono a nessuno, lei sta delirando. La signora di prima, peraltro, a me non molto. Stavo passando a un altro argomento. Per fortuna ho la possibilità di farlo, ha capito? Ho la possibilità di farlo, ha capito? Sì o no? Lo so, purtroppo. Sì, purtroppo, per fortuna ho la possibilità di farlo. Purtroppo sì. Forse non ha capito che comando io qua. Ha capito o no che comando io? È proprio quello che le sto dicendo. Comando io, mi dispiace, comando io. Un po' troppo. Ma no, ma comando io, ma funziona così dappertutto. Funziona no. Sì, sì. Per me non ha mai funzionato. Per lei invece quasi deve arrendere, funziona così. Lo so, mi sto arrendendo. Mi sto arrendendo a gente come voi. Ma che c'entra gente come noi? Facciamo una trasmissione televisiva. Pronto? Facciamo una Guido? Sì. Eccoci. Eccomi. Guido Crosetto, Fratelli d'Italia. Parenzo? Eccolo. Ce l'hai la laurea, Parenzo, tu? Guido? No, ma non l'ho mai detto di averla. Guido, che è successo? Stai parlando con me? Allora, pensavo di non essere ancora in trasmissione. Sì, sì, sì. Che è successo? Pure tu sei cascato su sta storia della laurea? No, da voi due no, per favore. Hai chiamato? Scusa, avete chiamato quello che ti ho detto di chiamare? Ho chiamato, ho avuto tutte da Vittorio Zincone che ti ha fatto un'intervista per Sette. Ho chiamato. Bravo, no, ci tenevo che facessi prima di sentirmi. No, ma certo mi ha dato tutte le spiegazioni del caso. Perché mi sono sentito attaccato per una cosa, quando sul mio sito, che come tutti compilo io e scrivo io, ho scritto semplicemente la verità, quindi sul tuo sito quale? Quello della Camera? No, sul mio, il sito Guido Crosetto, quello che uno però la Camera chi ce l'ha messa quella roba dentro quello della Camera? Sai, quello della Camera, come se tu ti vai a vedere quando io sono arrivato, c'è scritto maturità classica, non so, oggi ho chiesto alla Camera di chiarirmi questa cosa. Ma sarà stato un tuo collaboratore, scusami. Ma sì, ma però capisci, quando uno si presenta attraverso il suo sito che è pubblico, il mio ha 2000 visite al giorno, e c'è scritto la maturità classica, ha frequentato economia e commercio, ha interrotto per la morte del padre. Quello è quello con cui io mi presento. Poi sono stato attaccato per un articolo di Zincone al quale avrei risposto alla domanda, mi sono laureato. Ma adesso ci andiamo su questo, però scusami un attimo, Guido. E tu hai sentito Zincone? Sì, dopo te lo dico che cosa mi ha detto, però c'è una... È stato molto corretto, dico cosa mi ha detto. C'è una piccola cosa. In un'intervista al Corriere della Sera tu dici di avere comunque commesso un errore, cioè di avere detto qualche volta in giro che eri laureato, invece non era vero. No, nell'intervista che io non ho fatto al Corriere della Sera. Una debolezza, noi esseri umani siamo esseri strani. No. Cioè stai dicendo che Roncone è un falsario? No, ti dico che Roncone ha ripreso un tweet che io ho fatto, quindi anche questo pubblico. Cioè, non ho capito, ha fatto un'intervista senza che fosse un'intervista? No, in cui Roncone, quando mi ha chiamato, gli ho detto: potresti fare il favore di sentire, come si chiama, il tuo collega, così ti fai dire cosa Zincone, gli ho detto nell'intervista. E Zincone è stato così corretto che quando io l'ho chiamato gli ho detto: guarda che io non ti ho mai detto, sono laureato. Lui, avendo la cassetta andata a ascoltarsi, ha detto: sì, è vero, non me l'hai detto. Poi io ti ho mandato le bozze e non le hai corrette. Io ho detto: va bene, se la mia colpa è non aver corretto le bozze, chiedo scusa, ma almeno sono contento di però adesso ti dico io quello che mi ha detto Zincone. Un attimo. È vero o no che hai detto questa cosa? A Fabrizio Roncone del Corriere della Sera la chiami una debolezza, noi esseri umani siamo esseri strani. Ho detto a Roncone, quello che ho scritto su Twitter, che dico: mi sarà successo qualche volta nella vita, lo ammetto come debolezza, mai pubblicamente, mai in un'intervista, che a qualcuno mi dice: ma lei è laureato, no? E che la risposta magari a tu per tu con una persona sia stata: nella vita sì. Cerca di capirla bene, cioè, perché altrimenti... Un attimo, ho la pubblicità, torno subito, Guido, scusa, che sennò non riusciamo a completare il discorso. Parenzo, ci sei o no? Intanto qualcuno mi scrive, l'amico Paolo Riguori mi scrive: non sono laureato e me ne vanto. Vantarsi addirittura, diciamo, chi se ne frega di essere laureati, quello sì. Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Tu sei come una piccola zanzara che la notte... Che poi non capisco questa volontà di prostrarsi, la chiamo io, di trattare con Grillo che vuole distruggere i partiti. Comunque, vabbè. Parenzo, che stai facendo, scusa? No, sto tirando lo sciacquone, intanto, in omaggio al mio editoriale per Grillo. Ecco qua. Sì, ma non si sente niente, non si sente niente, non hai capito ancora. Tira lo sciacquone a Grillo, bah. Editoriale. Siamo qui 800-24-0024 con un arrabbiatissimo Guido Crosetto, perché nei giorni scorsi arrabbiatissimo. È stato paragonato a Giannino, vabbè. Non sono stato paragonato. Ah, perché io i media sono fatti così, l'informazione è fatta così. I media sono fatti così, però se scrivessero ogni tanto la verità. Io non ho capito, Roncone, quando ha scritto, scusami, però Guido, io voglio dirimere una questione. Siccome è stato scritto su Corriere della Sera, ho raccontato una piccola innocente bugia. Sì, no, difatti Roncone. È vero o non è vera questa roba? No, difatti Roncone ha preso quello che io ho scritto su Twitter, lo stavo ripetendo, quello che io ho scritto su Twitter, dicendo: guarda, l'unica cosa che mi è mai capitata nella vita, io ho ceduto come al solito faccio io in generosità. Questo è successo nella vita, al domani, non di un giornalista, di dire: ma lei è laureato, non di aver risposto sì nella vita, l'avrò fatto magari qualche volta, ma è una debolezza, ma mai ho lasciato un'intervista, ho detto una cosa, mai ho usato la laurea, mai ho fatto nulla. Il sito della Camera, però, scusami, bisogna che lo controlli. Sul sito del governo c'era scritto, e mi è costato nottate di litigate perché io non l'avevo mai letto e mai accorto, la mia compagna, c'era scritto: fino a un anno fa sposato con un figlio. Io sono separato da anni. Sì. Ma chi li scrive queste cose sul sito della Camera? Chi l'ha scritto? Non avendo io. Ma come non lo sai? È tuo? No, non avendo. È la cartina di tornasole, di presentazione. Uno va sul sito della Camera e vede che è laureato in economia e commercio. La cartina di tornasole in quest'epoca moderna sul sito che ognuno di noi fa e dove scrive quello che è e che fa tutto. Cioè, il sito della Camera non vale più il tuo sito? No, presentare me vale il mio sito, ti ripeto, allora io sono sposato, no, non lo sono, sono separato da anni e tra poco divorziato. Allora, però c'è un'altra questione, che è quella di Vittorio Zincone, aspetta, Vittorio è stato un giornalista signore del Corriere della Sera, collaboratore di Sette, eccetera, il quale però mi ha detto una cosa, e questo qua, insomma, magari non interessa l'universo mondo, però vale la pena chiarificarla questa cosa, chiarito. Io ho detto: lui è un signore, perché quando io l'altro giorno ho chiamato e ho detto: guarda che mi stanno esigendo per un'intervista, e quale tu scrivi che io ti ho risposto: sono laureato. Hai mica la bobina? Lui mi ha detto: sì. la riascolto. È stato così signore, perché poteva dirmi no, da riascoltarla e dirmi in effetti non me l'hai detto. Aspetta, però aspetta, aspetta. Però io ti ho mandato la bozza dell'articolo. Sì, sì. Esatto, e tu non l'hai corretta. Esatto. Sì, bravo, cioè non l'ho proprio corretta, ma non ho corretto l'articolo. Beh, non è che non l'hai corretto, scusa, lui mi ha detto questo, Io gli ho mandato l'articolo in cui c'è scritto sono laureato, perché sì, l'informazione di essere laureato lui l'ha presa dal sito della Camera. Sì, gli ho, esatto. Gli ho mandato l'articolo per fare una, non dico una correzione. Siccome tu sai benissimo come funzionano e come succede in queste volte. Cioè non ti sei accorto di quel passaggio in cui lui scriveva sono laureato? Non me ne sono accorto semplicemente perché quell'articolo lì non l'ho corretto io, ma me l'ha corretta la persona che mi curava e mi cura i rapporti con la stampa. Non l'ho guardato, non l'ho visto, ma se quella è una colpa, ma l'avessi visto anch'io, non l'avessi visto, ma un conto se mi dicono tu hai detto una cosa non vera, un vabbè, conto è fatto perché hai scritto una cosa che non ho detto. In cosa hai sbagliato? A dirlo, a dire a qualcuno qualche cosa devi avere sbagliato, ma anche no, tu. Guarda, io siccome no, perché la cosa che mi è piaciuta in questi, che molti avversari politici di altri partiti sono usciti dicendo in dichiarazioni non riprese da nessuno, ma come, sono anni che noi lo sentiamo vantarsi del fatto di essersi conquistato una credibilità su alcuni temi solo studiando e lavorando, nonostante non avesse una laurea. Cioè che gli hanno affidato, siete andati a cercare le dichiarazioni, quando ho fatto il relatore al bilancio alla finanziaria ho detto, beh, me la sono conquistata studiando, nonostante non avesse una laurea. Hai detto delle bugie, qualche volta a qualcuno privatamente hai detto delle bugie. Questa. Molte meno di quelle che dite tu e Paresto in privato. Ma che c'entra, in privato? ognuno ma non faccio, no, non dai, ho fatto il deputato adesso, io, dai, sì, è diversa la cosa. No, non è diversa, perché non si parla di cose pubbliche, non si parla di cose che ti sono servite il a fare. Sito della Camera, il sito della Camera, bisogna controllarlo. Oh porca di una cosa, ma secondo te io voi che mi conoscete, io sono il tipo che va a vedere come mi hanno messo nel sito della Camera, ma lo sapete benissimo. Vabbè, poi, ho capito, ma se uno non va a vedere è peggio. Tanto più che il sito della Camera, che il sito della Camera, quando io sono entrato in Parlamento, riscriveva tranquillamente, regolarmente, maturità classica, punto e basta. L'ho visto quando sono entrato in Parlamento, poi non mai più controllato. Sì, beh, allora, scusami Guido, però la storia, sì, la però, storia che qualcuno corregge e tu uno non se ne accorge, non l'articolo, dico il sito della Camera, che uno non lo controlla, se uno la racconta la gente si mette a ridere, certo, purtroppo scusa, è così, purtroppo allora, è così. Purtroppo il cazzo è così, scusa. Per in che senso volgare. Purtroppo il cazzo? Scusa, perché semmai se io avessi scritto nel mio sito una cosa simile, in quello che ho compilato io. No, quello della Camera non è che non vale. O l'avessi dichiarato io, primo. Secondo, se io avessi mai fatto un'ora di lavoro guadagnato un euro per una cosa così. Ma no, ma quello no, quello no. Allora non mischiamo le cose. Ma io non sto mischiando. Perché poi uno che non ha mai fatto un cazzo nella vita, sentirsi crocifiggere da due giorni per una cagata che non ha neanche fatto, gli girano i coglioni in un mondo dove ci sono quelli che fanno politica, che rubano, si mangiano ostriche e champagne, si portano le puttane in Parlamento, cioè adesso mi rompete i coglioni a me per una cosa che non ho detto, fatto per il sito della Camera. E vabbè, chiederò scusa anche per quello. No, Guido, però... No, calma, ma anche Giannino prima di questa vicenda era considerato un guru, era considerato uno super competente, che rimane super competente tra l'altro. Che rimane super competente, rimane un mio amico, ma c'è una diversità sostanziale. No, ma certo, non volevo fare... Io non l'ho mai sbandierata in pubblico e non l'ho usata per fare nulla. Capisci, quello che io invece è conquistato col lavoro e con le braccia e con le mani. E io l'ho interrotta, non mi sono mai vergognato di dirlo, perché l'ho interrotta perché è morto mio padre. Perché sono tu sai che politici in altri paesi vengono crocifissi anche se bravissimi, per minchiate, per piccole minchiate. Hai ragione, in altri paesi però se un politico avesse scritto sul suo sito personale la verità, nessuno l'avrebbe crocifisso. In questo paese non è contato nulla. In un altro paese, se in un'intervista su un giornale importante come il Corriere fosse uscita una cosa che magari quello non aveva detto, sarebbe successo qualcosa di diverso. E cos'è che hai detto che è stato riportato male? No, spieghiamola per concludere, no, spieghiamola sta cosa. Il fatto che mi è stato attaccato perché nell'intervista di Zincone c'era scritto mi sono laureato. Ma lui ha detto di avertela fatta rileggere, me l'ha detto a me, io l'ho fatta rileggere. Sì, non me l'ha fatta rileggere, me l'ha mandata perché la rileggessi e io ho sbagliato a non rileggere, non corretto. E chiedo scusa, che tra l'altro dico è un signore, perché lui poteva dire non ho le registrazioni, nessuno avrebbe avuto. Tra l'altro non lo fa per tutti, specifichiamo. No, perché è un signore, ci tengo a dirlo, è una persona di una correttezza esemplare, perché un altro avrebbe detto non ho le registrazioni e lui invece, sapendo che questa cosa sarebbe uscita, ha detto no, le registrazioni qualche volta con qualcuno ti sei vantato, dai, basta, sì. Chiudiamola qui, qualche volta con qualcuno non è che ti sei vantato, hai detto molto più quanto vi vantate voi con le donne. Comunque, ego te absolvo, ego te absolvo. Ti abbraccio fortissimo perché non me ne frega niente di questa storia. Non me ne frega assolutamente nulla. Voglio dirti solo questo, guarda. Dimmi. Il grandissimo Manzoni, omnia munda mundis, tutto è puro per i puri, tutto è puro per i puri. Ma come direbbe Cichito? Come direbbe Cichito, Parenzo? Come direbbe? Guarda, è una vicenda veramente schifosa, è colpa di Eugenio Scalfari, è una vicenda schifosa, guarda. Eugenio Scalfari è un pezzo di merda, sentiamo. Scalfari è un pezzo di merda. Una vicenda di veleno. Grazie a Guido Crosetto, grazie. Ciao Guido. Ciao. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Cruciani, lei è uno squallido e miserabile, una larva umana. Ma ecco, un po' forte però. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vedi, vi annuncio, cari ascoltatori, un intervento molto, molto importante, molto in alto, intorno alle 20:15 o giù di lì. Restate attaccati. Svolta sulla crisi italiana, svolta. Non mi molesta il moschito. Mirko da Brescia, buonasera. Mirko? Che sta facendo questo Mirko? Che stava facendo? Mirko, prenda il telefono bene. Sì. Non c'è nessuno. Che pazienza che ci vuole. Abbassi la radio. Eccomi qua, però io non lo sento, Cruciani. Vabbè, Giovanni da Cosenza, buonanotte. Giovanni? Sì, salve, aspetto da un'ora e mezza. Quelli che la mandano a fanculo li fa parlare mezz'ora. I fan come me invece li tratta così. Che ne so, che lei è un fan e comunque per me fa lo stesso, non cambia nulla. Vabbè, niente. Allora, dicevo, sbattezzato non esiste innanzitutto, perché teologicamente non esiste. Anche se uno si sbattezza presso il Quirinale, sì, non vale niente. Ma che vuol dire questo? Però, volevo dire che io sono votato... intanto ultima ora. Monti invita a Palazzo Chigi, Bersani, Berlusconi e Grillo. Monti in vita a Palazzo Chigi, Bersani, Berlusconi e Grillo. Ma tutte le immagini, tutte Parenzo, immagini, che cosa può succedere? Mi hanno chiamato, mi ha chiamato Rigor Montis. Ma vi rendete conto? Ma vaffanculo, non c'è via lì. È da bombardare Palazzo Chigi, non serve. Ma dunque non ci tutto va lei? Non ci va Grillo lei? Ma no, ma vaffanculo, ma è ovvio che non vado, non ci va nessuno, sono morti. Si ritrovano tra di loro, lo capite o no che sono morti? Giovanni, allora? Sì, ho votato, sto dicendo che non sono pentito di aver votato Grillo, perché sì, sapevo della baraonda e l'ho votato per questo, per vedere questa bellissima cosa che sta succedendo in Italia, una baraonda totale. Un attimo solo, Giovanni, scusi, resti qua perché abbiamo così. Don Andrea Maggi, buonasera! La pace sia con te, non mi piace, buonasera, dica però. Parrocchia di Santo Stefano a Castel Vittorio, Imperia, come sì, sta? Sì. Come sì, sta? Sì, dica pure. Ma com'è la fotografia di Ratzinger? Ormai è in polvere? No, assolutamente. Anzi, è l'unica salvezza per la Chiesa. Quale? Bruciare Ratzinger? No, lui Ratzinger, la sua situazione che è? Può ancora salvarmi la Chiesa? Lui, poverino, è la vittima di millenni di errori. Quali errori? Me lo lascia dire? Sì. Se tu hai la fede che ha vinto che Gesù Cristo, che ha vinto Satana, il mondo riesce ad andare avanti. Sì. Ma se il nemico ti sporca la tua fede, sì, quella che ha vinto, che l'ha vinto, che ha dato appunto Gesù Cristo, te la sporca con che cosa? Con i fenomeni fatti da lui, e tu li accetti come veri, cosa succede? Che il tuo antidoto contro Satana, sì, cosa, non funziona più. Non più la porta di andare avanti, tu devi vincere il mondo. Scusi un attimo, don Andrea, mi perdoni un attimo, ma lei oggi ieri ha bruciato la foto di Ratzinger. E allora, ma questo è un fatto già eclatante. Perché? In un certo senso. Per attirare in un certo senso l'attenzione, se no avrei potuto scrivere tutto quello che volete, tanto certo, fatto. Niente, ci siamo. Il problema è quello lì. Ma dunque non questo è pentito Ratzinger. Lei? Non è pentito? Ma mille volte lo rifarei, perché dici tu sei lo spittino che abbandona la nave. Ma lei l'ha paragonata a Schettino. I laici del mondo muoiono con la nave, affondano e tu me la abbandoni. Tu sei il buon pastore che dà vita per le pecore, te ne vai a imboscare. Ma imboscare? Ha lasciato la chiesa, è andato a Castel Gandolfo. E allora ti vai a imboscare, che cosa vai a fare? Vai a imboscare, adesso è una parola grossa, signor Maggi, ma dai. Ma che scusa. Cosa? Ma che cosa fai? Scusami, sta al tuo posto e chiediti. I mali della Chiesa che io mi sembra aver riconosciuto, dice lui, però bene, sì. Sono gli orsoni, i cardinali, sono gli otti qui di potere, questa età. Sì. No, stai sbagliando tutto! Su di te, Papa, su di te, Benedetto XVI, per il bene sì. Che ti voglio te per la Chiesa. Sì. Qual è l'errore? La fede che tu hai ricevuto in questi 1000 anni che ti è arrivata sì. È inquinata da chi? Da Satana. Dove ti ha inquinato? Con i fenomeni che non ci sono evangeli, cioè, ma lui le è stato inquinato, le apparizioni, sì, le stregonerie, il Padre Pio, il sanguinaccio, quello che vuole. Sì, se tu quindi la tua forza che vince Satana, sì. Il tuo antidoto, è inquinato, ma vada ad avere efficacia. Non si può andare avanti di te stesso da convertire il mondo. Quindi però tu, scusi, Don Andrea, Benedetto XVI, sì. Ti riprendi, cioè, le tue scarpe rosse, ti telefono al camerlengo tuo di sospendere tutto e dici: ritorno, prendi in mano, purifico questa fede. E però scusi, tocca Don, ma Don Andrea, ma ormai hanno convocato il conclave. Ma niente affatto, non conta niente, non c'è l'antipapa, non esiste. Ma hanno convocato il conclave, hanno convocato il conclave. Ma così interessa quelle cose lì che ha indetto il Padre Itali? Non esiste ancora, non c'è. Tu Papa Benedetto XVI devi dire: ho capito dove è l'errore, perché viene il prossimo Papa con sì. La fede sbagliata che è arrivata a me, passa anche in lui, non mi risolve nulla, non mi risolve però niente. Scusi, molti hanno detto che era un atto eroico questo qua. Chi? Che questo cosa? Del Papa, questo del Papa. Un atto eroico. Ma perché com'è un eroismo, scusi, la sua prima fonte con la nave. Non te ne tiri, scusami, è un eroismo secondo te? Muori sulla croce, no? Gesù non dice chi mette mano all'arato e torna indietro non è adatto, cioè, per il regno di Dio. A cosa possiamo paragonare? A cosa possiamo paragonare? Il povero Papa è un amore. Fate il giudizio che sta voce dicendo. Papa, rientra in te stesso. Capisci, Satana ha dato un colpo d'incanto. Sì. Da dove deriva questo? Sì. Dal fatto che Satana ha inquinato la fede della Chiesa che l'ha sempre vinto. Sì. E rimane quindi lui il vincitore e continuerà. Se tu, Papa, non mi ritorni tu a dire io rinuncio sì. A Satana, visione, apparizione, allucinazione. Ma che c'entra l'allucinazione? Ma tutto quello che c'è, non nessun Papa che verrà avrà la forza di portare avanti la Chiesa. Scusa, non sono i problemi umani, non sono i problemi Don Maggi, non sono i problemi di quelle cose. Don Maggi, scusi un attimo, Don Maggi, lei a cosa possiamo paragonare questo abbandono, come dice lei, questa fuga del Papa? È stata, lo ripeto, una zampata satanica, come posso dire. Ah, una zampata satanica. Sul vertice della Chiesa per continuare a essere lui vincitore. Satana, dice, colpa di Satana. Ma certamente, ma scusi, ma ci credete che c'è Satana o non ci credete che i suoi disegni e il suo regno? Satana. Ma perché riesce a vincere? Perché tu ci credi, Parenzo? Di Satana, tu Chiesa, ma la tu hai tu la fede che ha vinto adesso, Satana. Aspetti, Don Maggi. Scusi, Don, intanto, vabbè, continuiamo a chiamarlo dove? Ci vuole una ambulanza. Lascia bene una ambulanza. Smetta di evocare Satana da una radio nazionale, la smetta, basta, con questo basta. Ma scusa, basta. Se lei non ci crede, a me non mi interessa niente, ci siamo che non ci creda Satana. Bravo, c'è ed esiste, il male non è tutto opera dell'uomo, c'è anche sopra dell'uomo. Ma scusi, abbandonare la Chiesa, Don Maggi, abbandonare la Chiesa che cos'è? Come ammettere, che ne so, l'eutanasia? È una strada, se vuole, a un certo momento, come posso dire, cioè allora che cosa? Che abbandona il matrimonio e fa il divorzio? E che fa questo? Che cos'è? Cioè, è come ammettere l'omosessualità. Ma questa è un'altra situazione. Allora, parliamoci chiaro. Quando Dio ti ha creato con questo corpo, funziona o non funziona? In che senso? Oh, porco cane, ti fa felice o non ti fa felice? Beh, insomma, mai stonto, ti farà mai felice questo corpo. Ci siamo perché abbiamo fatto noi, l'anima l'ha fatto Dio, l'anima è imbrionata dentro questo corpo che purtroppo soffrirà per sempre. Beh, abbiamo Don Andrea Maggi, parrocchia di Santo Stefano, Castel Vittorio, Imperia, ha bruciato la foto di Ratzinger e non si pente, anzi lo rifarebbe. Dica subito, per favore, qual è il problema? No, nessun problema, è per me, figure, per me le può bruciare tutte le foto che vuole. E allora, qual è il problema? No, qual è il problema? Ma che cosa volete da me? No, nulla. Cosa vuol sapere altro da me? Don Maggi, lei che ne pensa dell'omosessualità? e le sto dicendo che l'ho parlato prima dall'inizio, ho detto questo: tutto il corpo dell'uomo è malato e mai soddisferà in tutte le sue forme, mai soddisferà l'anima. L'anima embrionata da Dio perfetta si trova un corpo inadatto, che poi lo trasformi in gay, lo trasformi in bisessuale, lo trasformi in trans, lo trasformi quello che tu vuoi, ma l'operazione che tu vuoi, sarà sempre un corpo inadatto in tutte le forme. Cioè, capisci o non capisci? Ma sono malati? Sono malati. Il mio maestro mi dice la carne che avete addosso non vi giova nulla, vi dice il mio maestro. Quando poi lei vuole andare per psicologi psichiatri, non me ne frega un fico secco. No, nulla, associazione mondiale della sanità, ha capito, un fico secco. Sì. Tutta l'uomo ha scelto lo stato animale, fonte di felicità e di vita, tienitelo, dice Dio, non ti do nessuna regola, tienitelo, non sarà mai pochino forse di vita finché non farai tutti i laboratori genetici. E di felicità, scordatelo, non esiste, cancellala, perché sto corpo non ti farà mai felice in tutte le forme, in tutti i gusti. Anche se uno va con una donna, e io non ti do nessuna legge, cioè voglio dire, non ti faccio dei paletti, deve essere detto, deve essere questo, beh, insomma, la chiesa è contro il matrimonio, se lo fai in tutte le forme che tu vuoi, non me frega niente, non tu sarai mai felice in tuo corpo. Ho capito. Hai capito o no? Ho capito benissimo, il corpo non sarà mai, non ti darà mai la felicità, mai la felicità, perché la tua anima si trova un corpo inadatto, fatto da noi, dai genitori o dai nostri pasticci, laboratori genetici. Sì. Questo corpo non funzionerà mai e la tua anima ne avrà sempre una sofferenza. Ma scusi, forte. Don Maggi, e lei, il tuo lei, corpo lei continuerà ad avvelenare la tua anima e in fondo tu ti sei veleni di gusti, di passione, quello che tu vuoi, in tutte le forme, tutte bisessuali, poligamia, quello che tu vuoi, non ti soddisferà mai, lo capisci? Hai capito, Parenzo? Non ti soddisferà mai il corpo, In tutte le forme, le sue forme, lo capisci, capito, sì o no? Ho capito. Io non sono nato come una condizionata e dice ti costituisci come vuoi, te lo nasso libero, non faccio come nella natura dove gli animali e le piante sono determinati in un certo modo, te lo costituisci come vuoi, va bene, domani però la, questo, io te la lascio tutta la libertà sessuale, va bene. Ma non sarà mai felice perché il tuo corpo schiavizzerà sempre la tua anima e tu non sarai mai felice lì dentro. Ho capito. Poi giralo come vuoi, Don Maggi, scusi un attimo, però qui c'è una questione fondamentale. Lei è stato rimproverato per aver fatto questa cosa anche dal, come si chiama, domani avrò l'appuntamento dal vescovo superiori alle 10 seminario e vi vedrò i provvedimenti che verranno preso. Cosa me ne frega a me mi interessa se Dio mi approva o no, e per il bene della Chiesa, se vorreste veramente bene alla Chiesa direste ha ragione questo prete, bisogna avvisare in qualche modo il Papa dicendo torna su te stesso, riconosci il caso di tutti i mali è una sola, la fede che tu hai non è perché dato Gesù Cristo. Quindi anche il Papa nuovo che Maggi, verrà, se non ha la fede di Cristo, che è l'unica che ha vinto Satana, ma si calmi un attimo, ancora con Satana di allucinazione, di visione, apparizione, di corretta, eccetera, non lo puoi vincere. Scusi, Satana ti rimane sconfitto. Parezzo, Don Maggi, mi ascolti solo un secondo, guardi, mi ascolti, io ho capito tutto. Lei faccia una gentilezza. Adesso quando torna in canonica, lei prepara una valigia molto molto grande, perché lei sarà via parecchi giorni. Dentro questa valigia mette tutti i suoi effetti personali. Tra poco arriva un intero reparto dell'ospedale psichiatrico, le mettono una camicia bianca. Piacere, e Gesù la benedica, la pace sia con te, grazie. E la portano via, amico mio. Vabbè, però, su, David, ogni volta... Ma tu ti rendi conto di che cosa ha detto questo signore, questo Don Prete? Ma dai, su, ogni volta è così, dai. Ho detto con gente... Ma ti rendi conto cosa ha detto? Questo deve preparare la pace sia con me, Satana, e brucia, e ribrucia la cosa di razzi. Ma devono andare lì, ma per il suo bene, è pericoloso a se stesso, devono andare lì immediatamente, deve fare una valigia enorme. Una valigia enorme deve la fare, la pace sia con te. Alessandro da Catanzaro, buonasera. Vabbè, la ragazzi. Pace, buonasera. No, chi c'era? Da Cosenza, Giovanni, scusi, Alessandro, vengo subito da lei, Giovanni, allora. Mamma, sì, ci siamo di nuovo? Sì, sì, vada Giovanni, su, veloce. Sì, sì, veloce. No, però... ha ragione, però andiamo, su. Vabbè, prima ho detto quella cosa, l'ho spazzeggiato, no, mi ha fatto perdere il filo, però dico, dico che ho votato Grillo. Sì, vabbè. Con convinzione, no? Sì. Ma non perché credo in Grillo, io non credo, anzi mi stanno pure sulle scatole queste cose di dimezzamento dei costi, sì. 75% in meno dello stipendio, cioè tutte cazzate, allora? Tutte delle grandi cazzate. Però l'ho votato appunto per assistere a questa baraonda che prevedevo e che oggi si è già cominciata a manifestare con questi qua, con un perito chimico che dice che si vuole occupare della politica industriale. Vabbè, italiana, ma prima c'avevamo i Sidori, però eccetera. Vediamo quello che succede, su, vediamo quello che accade. Prima c'avevamo i Sidori che non sapeva parlare, detto con tutto il rispetto, manco l'italiano. Queste sì, sono persone, ripeto, sono persone politicamente assolutamente impreparate a quello che è il lavoro parlamentare, al fatto di essere politici, persone come potrebbe essere lei. Non è che uno si prepara dopo che essere stato eletto parlamentare. Guardi, cioè, ho capito, però è un altro mondo, è un altro mondo, tutto da giudicare, ma sono guidati da due persone, uno è Grillo, l'altro è Casaleggio, guidati ho dall'alto, guidati. Per perché c'è la desacralizzazione del Parlamento, no? Che vabbè, ma chi se ne frega? Invece, no, ma è giusto, perché ti vedi arrivare questi qua che non stanno con questi macchinoni. Ma in questo cose, momento io ho un solo obiettivo, io ho un solo unico obiettivo, il resto mi interessa poco perché ho a tempi lunghissimi, che cancellino totalmente il finanziamento pubblico ai partiti, totalmente zero, quello, cancellato, quello sì, che cancellino le province domani mattina con un tratto di penna, con un tratto di penna. A me mi interessano per il momento questi due obiettivi, saranno obiettivi minimi, non risolvono i problemi dell'Italia, sicuramente, non c'è dubbio, poi che dimezzino il numero dei parlamentari e che mettono una clera al Senato, così trrrum, chiudiamo e ne riparliamo tra 100 anni forse. Cioè questo è il mio obiettivo adesso, lasci perdere il Senato. Comunque, dimezzamento parlamentari, eliminazione del finanziamento pubblico dei partiti, e che ho detto l'altra cosa? Ora, e le province. Subito, via, subito, perché subito. Basta, troppo ne abbiamo parlato a lungo, troppo a lungo, caro appunto, Giovanni, appunto, troppo a lungo, basta, appunto, è finita. Appunto, lo so benissimo, poi ho votato pure, stavo per votare Giannino, e poi non l'ho vabbè, votato perché purtroppo quella situazione là non ce l'ho fatta. Cosa faccio? Invece di votare due Grillo vado a votare Fratelli d'Italia e mi trovo un altro Crosetto. Vabbè, adesso è diverso, su, ha detto ogni tanto, ha raccontato in privato qualche stupidaggine, non ha controllato il sito della Camera, che appunto, secondo me bisogna controllarlo. Comunque, su, dai, non è che si è vantato pubblicamente della laurea, dai. Esatto, dai. Oggettivamente non si è vantato pubblicamente della laurea. Però, detto quello questo, sì, capisco che uno stia attento anche a questi particolari. Infatti la sua arrabbiatura oggi la sua arrabbiatura perché uno insiste su questo argomento, ma è normale, è un politico, ancorché sì, escluso dal Parlamento. Però non è neanche in Parlamento, capito? Vabbè, ho capito, però fino all'altro giorno era in Parlamento. Grazie, grazie a Giovanni. Andiamo a Alessandro Catanzaro. Siete geniali e la vostra regia è fantastica, siete geniali, non cambiate mai, eh? Bene, grazie. Valeria, scusate, Bernardi, ma regia, eh? Vada. Ah ok, ma il prete di prima, ma che dice che il corpo non è mai soddisfatto eccetera, ma invitatelo una volta che avete lì in studio con voi Sabina Vegan, quella lì di Berlusconi, o Flavia Vento, amico mio, o Biancofiore, poi vediamo se il corpo non adesso è completamente soddisfatto, no? Biancofiore adesso, fatevi fare questa esperienza. Benissimo, però non è che uno vede la Biancofiore e dice lei dice bisogna fare. No, non è che deve vederla e basta, dai, caspita, è fantastico. Ho capito, quello fa il prete, caro Alessandro. Ho capito, però ho capito, però lì si vede che Parenzo, lei che è allievo come me di Zagrebeschi, di Onida, di Temistocles, di Martinez, ma secondo lei perché non fanno questo benedetto governo dove si decide legge per legge? Ma è così un problema? No. Arriva Napolitano e chi vuole il governo, la fiducia, ma chi se ne frega? Ma io sono d'accordo, è una cosa straordinaria, sarebbe un governo, un parlamento. Qualcuno dice che ci vuole dopo le elezioni per forza un governo, perché addirittura il Parlamento si riunisca per fare le leggi, perché altrimenti non è vero, perché il Parlamento è sovrano e può decidere se respingere o accettare la richiesta di fiducia da parte del Premier. Beh, qui siamo al top, Parenzo, qui siamo al top. Ma come mai hai messo Fratelli d'Italia? Perché abbiamo un collegamento eccezionale, ve l'avevo preannunciato, cioè qui non è che noi puntiamo sempre in alto, per spiegare la crisi, la situazione attuale, qual è la persona più adatta, secondo te? Qual è la persona più adatta? Che ci può dare una parola risolutiva sulla crisi, una parola definitiva su questa situazione ingarbugliatissima. Qui ci sono gli imprenditori, li vedo anche proprio vicini a me, che sono preoccupatissimi, gente molto preoccupata, gente che si fa un mazzo d'Italia così dalla mattina alla sera, e che è preoccupata per l'instabilità politica. A me non me ne può fregare di meno, mi diverto come un pazzo. C'è gente invece che è arrabbiata, certo, è preoccupatissima, molto preoccupata. E quindi chi chiamiamo? Il Quirinale direttamente? Presidente? Pronto. Buonasera, presidente, buonasera, grazie. Innanzitutto a lei, caro Crociani, vada il mio più affettuoso saluto. Grazie Presidente, la disturbiamo solamente un minuto per capire una cosa. Caro Presidente, vorremmo capire se lei, una cosa molto semplice, se lei questo incarico alla fine a Bersani lo darà sì o no. So che è una cosa impegnativa, ci saranno le consultazioni, però i suoi orientamenti quali sono? Guardi, rientrato dalla Germania pochi momenti or sono, direi che la misura, il realismo... Sì. Insomma, il paese e gli italiani hanno fatto sacrifici e dobbiamo trovare una situazione capace, capace di unire, capace di permettere a ciascuno di esporre la propria posizione, il proprio progetto politico, ma con misura, con attenzione, dandoci il tempo, insomma, almeno di toglierci il cappotto dalla Germania. Ah, ho capito, non ho capito niente, scusi, però vorrei capire meglio, Presidente. Lei aveva detto tempo fa che quello di Grillo non era stato poi un boom, no? Beh, mi sembra che le cose... Io dissi, lei ricorderà, dissi, il di boom conosco quello degli anni 60. E lo riconferma? Riconfermo che Grillo rappresenta una parte che ricordo anche con piacere della televisione italiana, lo ricordo ancora con Pippo Baudo, hai capito, Varezzo? A cui va il mio affettuoso ricordo, e quello è il Grillo che conosco. È quello il Grillo magari preferisce. Un'ultima cosa, poi la lasciamo. No, non si può fare adesso l'intervista, cioè, non è che possiamo togliere tanto tempo, Davide, scusa. No, ma voglio capire le consultazioni. No, appunto, no, la cosa da capire è questa. Il governo di minoranza, lei lo accetterebbe oppure manderà Bersani solamente se ha una maggioranza definita, precisa, eccetera? Solo questo, poi la lasciamo, Presidente. Consulteremo tutti i partiti, consulteremo Bersani, avendo Grillo... Beh, Bersani, avendo Grillo consulteremo Berlusconi, consulteremo Fini, no, Fini non lo consulteremo più. Ah, ecco. Eravamo abituati, ci stava pure bene che una persona gentile a modo. Lo so, però. Abbiamo deciso con Clio, con la signora Clio, avendo Grillo, decideremo probabilmente di consultare il Gabibbo. Ah, pure quello. E Teo Mammucari. Ah, Teo Mammucari. Ma se si presenta Grillo, lei che fa? Vi siete anche, insomma, no? C'è stato... Ci faremo due risate. La signora Clio ama molto la comicità, molto la satira. Sì. Lei in realtà avrebbe voluto consultare Raul Bova, ma abbiamo pensato che fosse eccessivo. Mi sembra eccessivo. Grazie, Presidente, grazie. Non generiamo confusioni. Beh, direi molto chiaro, no? Molto chiaro. Considera Grillo un comico, altro che un politico, insomma. Questa è A me piace quando dice ed è con grande ribadimento. Ma perché grande ribadimento? Beh, io direi due volte a settimana, tre volte a settimana, prima che la crisi si sbrogli, no? Prima che la crisi vada a soluzione. Ah, di sentire il prete? Beh, ma no, il prete no, ma di sentire Napolitano. Ah, no, perché il prete lo ricovereranno in qualche struttura adeguata. La pace sia con te. Bene, qui è però... Sì, no, la pace sia con te quando ti portano via, amico mio. Entriamo però in una parte un po' seriosa del programma, non dico seriosa, però... Cairo ha comprato la 7, questo io dedicherei una parte di questa trasmissione all'ottimo, a un editore brillante. E dicono che Mentana abbia fatto una piccola minchiatina, dando la notizia in anteprima in una società quotata. No, Gad Lerner, dicono. Scusa, Davide, sì, è vero, Gad Lerner, non so perché ho detto... Dicono Gad Lerner. Vabbè, allora abbiamo comunque con noi Collino d'Italia, diamo il benvenuto a Cairo, che è un grande editore. Lo dai tu il benvenuto. Mi dispiace che tu, no, voglio dire pubblicamente, mi dispiace che tu ne abbia sempre parlato molto male. Ma non è vero. Dicendo sì. Mi dispiace perché io invece ti ho sempre detto, guarda, è una persona straordinaria. Tu hai sempre detto no, mi piace poco quello, è opaco, tu Cruciani. Io non credo che sia così. Io non credo che sia così. Tu ti favi in fondo Clessidra. E vabbè, ti prenderà le tue responsabilità. Io ho sempre detto Urbano. Vabbè, ho capito, facevi il tifo per Urbano Cairo, l'abbiamo comunicato. Sei tu, mi dispiace, perché hai questo giudizio così negativo su Cairo? Non capisco, ma assolutamente non è così. Perché? Okay. Non capisco perché. Va bene, con noi Enrico Sasson, buonasera. Buonasera. Come sta? Ah, beh. Bene, ah, però. Allora, signor Sasson, per chi non la conoscesse, certo, perché... ex socio della Casaleggio Associati, ma in realtà ha una lunghissima attività, è stato mio tra l'altro... amico fraterno. Ma non è vero, non è tuo amico fraterno, non lo conosci per niente, amministratore delegato della Camera di Commercio Americana in Italia. Adesso qual è la sua carica, signor Sasson? Ce lo spieghi lei, perché ogni volta ci sono dei fraintendimenti su questo. Ma insomma, la mia attività professionale in questo momento si concentra soprattutto sulla Harvard Business Review, che è l'edizione italiana della Harvard Business Review americana. Sì. E poi mi occupo di una società con la quale costruiamo, diciamo, convegni e incontri per di carattere economico e di economia d'impresa. Queste sono le mie attività principali in questo momento. Lei è stato un sacco di anni, tra l'altro, anche qui al Sole 24 Ore. Sì, un quarto di secolo, direi. Un quarto di secolo. Invece, per quanti anni è stato socio di minoranza, credo col 5% della Casaleggio Associati, se non sbaglio? Per quanti anni? 5, 6, Ma 7? Se non ricordo male, la società è stata fondata nel 2004, quindi dal 2004 al settembre dell'anno scorso. Settembre lei andò via con una polemica molto forte per quello che avveniva in rete. Sì. Per alcuni insulti ricevuti in rete, anche nei alcuni blog. Alcuni insulti è proprio un understatement. Cioè, no, per attacchi molto, molto forti, vabbè, insulti, attacchi ai presunti poteri forti che ci sarebbero stati all'interno della Casaleggio Associati, se non sbaglio, no? Sì, che io suppostamente avrei dovuto rappresentare secondo chi si inventava queste spassose lucubrazioni. Ma non torniamo su questo, le voglio chiedere una cosa. Andando via dalla Casaleggio Associati, lei in qualche modo voleva proteggere anche Casaleggio? L'intenzione era proteggere me stesso, visto che c'erano questi attacchi ed erano diventati molto violenti e dalla rete erano passati sulla stampa, chiamiamola ufficiale, senza alcuna capacità critica di valutazione, di controllo, di verifica. A quel punto mi sono sentito di staccare le mie sorti da quelle della società, anche perché la società non prendeva in considerazione l'idea di farlo per conto mio. Cioè, gli attacchi venivano anche dai meetup di Grillo? Cioè assolutamente gli attacchi sono iniziati nel 2007. E venivano certamente da molti meetup di Grillo, ma venivano anche da direzioni del tutto impensate, da destra e da sinistra, da siti del PD o del PDL, ma anche da circoli vegetariani, voglio dire, che non si capisce con quale motivazione dovessero entrare in una questione di questo genere, se non perché io sono forse carnivoro, non sono vegetariano. Senta una cosa, oggi per esempio c'è un articolo sulla stampa in cui si parla di alcuni settori in America, di alcuni ambienti in America, ebraici in particolare, preoccupati dall'antisemitismo di Grillo. Lei che ha conosciuto Casaleggio, non Grillo immagino, ma che comunque quel mondo lo conosce, è preoccupato anche lei per un... cioè c'è l'antisemitismo nel Movimento 5 Stelle? Che io sappia, non c'è, finché non diventa una politica ufficiale del Movimento 5 Stelle ci possono essere degli individui e ce ne sono sicuramente, perché ho visto anche delle espressioni in questo senso antisemite piuttosto che non anti-ebraiche, abbastanza becere, e queste sono state espresse anche nel sito di Grillo, poi alcuni messaggi sono stati cancellati, ma la cosa mi preoccupa relativamente poco nei limiti in cui non diventa una politica ufficiale del Movimento 5 Stelle, che ci possano essere degli imbecilli e là, che possano essere anti uno o anti l'altro, lo vediamo in continuazione, questo non ci deve provocare panico. Anche Grillo nel passato ha utilizzato delle frasi un po' bizzarre, per esempio Israele può causare la terza guerra mondiale, per quanto lei possa conoscere, lei non conosce Grillo mi sembra, no? No, io non conosco Grillo, non l'ho mai incontrato. Casaleggio non è certamente antisemita, comunque non è ostile a Israele per quello che lei può sapere. Non abbiamo mai parlato di questo argomento, per quanto io sappia, non credo che abbia delle posizioni a priori contrarie, però non conosco neanche posizioni particolarmente a favore. Diciamo che sull'argomento io ho visto girare abbastanza poco nel Movimento 5 Stelle, mi auguro che se dovessero mai esprimersi su questi argomenti lo facciano con tono e misura. Ma è preoccupato da questo? Un po' dipende dalla moglie. No, non ci perdo mica le notti, voglio dire, nella storia, che anche recente, voglio dire, che queste cose diventano pericolose quando sono politiche o di gruppi organizzati molto forti oppure di politiche addirittura degli stati. Non mi pare che siamo alla vigilia di cose di questo genere. No, perché come diceva Parenzo, la parentela, no? Moglie, adesso, la parentela di Grillo è morto l'altro giorno e ci dispiace, ma voglio dire... Certo. No, il fatto della parentela, la vicinanza all'Iran, diciamo, di Grillo ha fatto dire a qualcuno, vabbè, ha delle... una volta se ne uscì con una frase su Ahmadinejad, Grillo, se non sbaglio, no? Ma insomma, di frasi sbagliate Grillo credo che ne dica in abbondanza, quella per il fatto che sua moglie è iraniana e quindi lui è influenzato o sarebbe influenzato dalla medesima. Penso che allo stato attuale delle cose e della dimensione delle cose che ha detto fino adesso lascia un po' il tempo che trova. Se non vogliamo attaccarci anche alle virgole delle cose che dicono gli altri, insomma, forse bisognerebbe aspettare che venissero elaborate delle posizioni un pochino più coerenti, insomma. Ho capito. Senta, lei ha votato Grillo per caso? No, non ho votato Grillo. No, non lo voterebbe mai, è una cosa molto lontana dal... In questo momento non lo voterei, non l'ho votato e non lo voterei, ma questa è una posizione personale. No, voglio beh, dire, certo. Se dovesse arrivare a elaborare delle posizioni politiche sulle quali io mi trovo a coincidere, lo voterei senza problemi. Per esempio, no? Che cos'è che non condivide? Ma una cosa fuori Casaleggio? Adesso andiamo su Casaleggio. Che cos'è una cosa che non, proprio non condivide del movimento di Grillo? No, io non porta al caos, porta il caos in Italia. No, ma non è per questo. Il caos, quel tipo di caos, vale a dire quella più che caos, quel tipo di contestazione a una classe politica ed economica, in parte ovviamente, non in toto come lui tende ad affermare, compromessa e corrotta, beh, quello non si può che condividere, credo che tutti quanti lo condividiamo, meno di non essere dalla parte dei delinquenti e dei corrotti. Quindi quella parte, voglio dire, sta benissimo. Quello che forse ancora non si vede bene è la proposta migliorativa nei confronti di questa classe politica e di questo paese, perché al di là delle affermazioni di tipo molto generico, mi pare che ci sia ancora molto poco da questo punto di vista. Senta, ma tra Casaleggio e Grillo chi è la parte forte? Si può, lei che ha conosciuto solo Casaleggio, però ma non è che lei è andato via anche perché la Casaleggio Associati si era trasformata in un'altra cosa? Ma la Casaleggio Associati, allora, per fare le cose giuste bisogna dire che la Casaleggio Associati fa il blog di Grillo e che Casaleggio è il partner invece di Grillo. Dal punto di vista politico ne è in qualche modo, lui si è autodefinito, voglio dire, ha pubblicato una lettera sul Corriere dicendo: io non sono né a destra né a sinistra né sopra né sotto di Grillo, sono a fianco di Grillo fin dall'inizio. Questo l'ha detto lui e questa è la sua posizione ufficiale. E da quello che io so, loro si sentono da anni, varie volte al giorno, elaborano insieme le varie posizioni, dopodiché materialmente parlando Grillo non schiaccia i tasti del computer, ma lo fanno i ragazzi della Casaleggio Associati. Lo staff della Casaleggio Associati. Ma voglio dire, la domanda era: chi è la parte forte da questo punto di vista? Ma non ne ho la più pallida idea che ci sia una parte più forte e una parte più debole. Da quello che io so, loro collaborano e sono in forte sintonia. Diciamo che le posizioni politiche e ideologiche del movimento nascono da lì. Eccoci qui, 800-24-00-24 con Enrico Sasson, ex socio della Casaleggio. Vogliamo chiedere subito a Sasson una cosa, Parenzo. Ma secondo lei ha capacità carismatiche di leadership Casaleggio? Cioè, cosa vuole? Guidare l'Italia, avere ruoli? Un'eminenza grigia. Esatto. Insomma, io credo che abbia sicuramente a cuore un cambiamento nel nostro paese, che se lo voglia fare in termini più o meno democratici è una cosa che noi staremo a vedere. Ah, perché c'è ancora la possibilità che lo possa fare anche in termini, per adesso è una cosa poco democratica secondo lei? No, non ho detto questo, intendo dire che dalla domanda che lei mi ha fatto, in che modo Casaleggio, che cosa vuole fare, vuole guidare l'Italia, non so se voglia guidare l'Italia lui personalmente oppure avere una forte posizione all'interno del Movimento 5 Stelle, il quale dovrebbe avere una posizione di forza all'interno del governo, insomma, e del Parlamento. Suppongo che al momento si debba pensare a una cosa di questo genere. Ma ci vede dei tratti antidemocratici nel Movimento 5 Stelle per il momento, lei? No, io non rilevo tratti non democratici, io rilevo che personalmente ho la mia opinione su questo argomento, ma è solamente la mia opinione, voglio dire, che ci sia una capacità di selezione anche delle persone che sono state portate fino in Parlamento, che non è totalmente né trasparente né particolarmente convincente, perché è avvenuta con meccanismi sulla rete che non danno quella garanzia che forse molti di noi vorrebbero avere. Ma questo anche perché sono più controllabili, secondo lei? C'è anche questo aspetto? No, non è per questione. Sembra che la si voglia in questo modo, si metterebbe la questione come se ci fosse un'intenzione di dolo, ma qui non è questione di volere fare del dolo, cioè voler controllare. La questione è che questi meccanismi sono meccanismi abbastanza specifici. spontanei in cui le persone che vengono identificate, che sono state identificate per essere candidate, sì, non mi pare che abbiano passato dei meccanismi di selezione particolarmente convincenti. Però, scusi Sassone, è anche vero che forse le persone più ingenue da questo punto di vista politicamente sono anche quelle più controllabili, quelle che puoi controllare meglio. È una domanda, ma nello stesso tempo una considerazione. Sì, io la prendo solo come considerazione, perché se lei dice questo probabilmente aveva i suoi motivi per ritenere che persone che vengono selezionate in questo modo siano più controllabili, io non lo so. Cioè lei non pensa che ci sia un problema, un deficit, un grosso deficit di democrazia nel Movimento 5 Stelle con due burattini che controllano la situazione, due burattinai che controllano la situazione, non due burattini? No, mi sembra un modo un po' demoniaco di mettere la cosa, francamente direi che al momento c'è un movimento che si è trovato ad avere delle posizioni di particolare peso e responsabilità che non si è costruito in termini organizzativi, quindi qui non è la questione di uno o due demoni che vogliono controllare tutto perché hanno delle velleità dittatoriali e un futuro nero. Io penso che al momento sia un movimento che deve strutturarsi se vuole farlo, probabilmente ci sono delle componenti all'interno che non vogliono nemmeno strutturare questo movimento. Che ne so, per esempio il referendum ma lei converrà con me? Sì, dimmi. No, voglio dire, Sasson, lei converrà con me che l'obiettivo unico del signor, del dottor Casaleggio, è quello di fare soldi, quindi usa il suo sito e il movimento per far soldi. Questa è la teoria di Parenzo, lei ci crede? Ma credo che sia un imprenditore. Diciamo, l'onere di provarla. Secondo lei non è così? Lui è animato da spirito, come dire, veramente vuole portare l'Italia, vuole salvare l'Italia, come dice, Io ho letto oggi delle dichiarazioni che dicevano Casaleggio che ha costruito un impero. Ora vi rendo noto, se non lo sapete già, ma basta prendere i bilanci, sì, che era Casaleggio Associati, un bilancio di poco più di un milione, tra milione e milione e mezzo, che mi sembra come impero fare un po' acqua da tutte le parti, certamente non dimostra che abbia costruito un impero per se stesso. Non vuole, cioè, la promozione del Movimento 5 Stelle, eccetera, non vuole fare i soldi Casaleggio. Ma questo dovreste chiederlo a lui, magari vuole fare secondo i soldi, lei, a me non me l'ha detto. No, lei c'è stato fino a settembre, d'accordo che non lo vedevo ogni giorno, però c'è anche questo aspetto, cioè partecipare alla nascita del movimento rende ricco. Non è il campo della maldicenza se non del basso pettegolezzo, francamente, se qualcuno ha queste idee le deve dimostrare. Dimostrare. Secondo lei non è così però, insomma, non è il suo obiettivo. Non mi risulta. No, ma è questo volevo dire. Non l'ho mai sentito dire esplicitamente, vorrei utilizzare il Movimento 5 Stelle per fregare l'Italia e portarmi a casa un sacco di soldi. No, non mi pare, non è la sua filosofia. Detto questo, io condivido ben poco di quello che è stato fatto nel campo, diciamo, politico, ma da lui medesimo o dei legami, diciamo, della società con il blog di Grillo. Lei non l'avrebbe fatto questo, cioè unire i legami della società ai destini di Grillo è una cosa che non avrebbe fatto. Ma ai destini di Grillo inizialmente non c'era niente di male, era semplicemente una consulenza fatta a un comico, a un attore, e si è costruito un blog che in un anno è diventato l'ottavo blog del mondo, non c'era veramente niente da eccepire. Quello che poi sono le scelte successive di carattere politico, per me c'era molto da eccepire, infatti l'ho eccepito. Grazie, presto. A voi. A presto. Arrivederci. Nicola da Verona, buonasera Nicola. Sì, buonasera. Dica. Volevo intervenire sulla questione di quel parlamentare del Movimento 5 Stelle che ha detto di essersi disiscritto dalla Chiesa Cattolica. Sì. Niente, secondo me sbaglia intervenire in questo senso perché... avvantarsi, dice lei, di questa cosa. Avvantarsi. Ma anche secondo me lei ha ragione su questo. È come vantarsi di essere non musulmano o vantarsi di essere non ebreo. Sì, ma no, ho capito bene, non c'è bisogno di dire sono sbattezzato. Grazie mille. Roberto da Massa, ultimo intervento. Roberto, veloce. Pronto? Vada, veloce. Ecco, sì, un piccolo aneddoto. Genova, un po' di anni fa, un concerto, il palcoscenico, c'era Grillo, no? Io ero lì presente. Allora, veloce, su. Prova del suono, niente, praticamente il chitarrista mi fa suonare un blues per far suonare la sera. Me lo racconta domani. 18:30 la Zanzara, ciao. Quello che mi fa veramente incazzare è il suo divertirsi. E se siamo in questa situazione di merda, Cruciani è colpa anche sua. Ma va, faccia finita. Quelli che non gli danno un calcio nel culo e lo buttano fuori. Si vergogni, è un pezzo di merda. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. La pace sia con te. Radio 24. La passione si sente.